passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro di essere padrone dell'intero universo. Poi malgrado la porta è entrata una zanzara, la zanzara, la zanzara, una specie assai rara, assai rara, assai rara. Di che tipo non so. Di che tipo non so, vedremo, vedremo cosa ci inventeremo oggi. Buonasera a tutti. Buonasera. Caro Parenzo, qui studio a Roma, 800 24 00 24. La sento particolarmente frizzante stasera. No, non troppo, no. Mi devo ancora caricare, no. Ci sono due ore e mezza per caricarci. Intanto qualche spunto. Sì, ha letto lei i giornali oggi, le agenzie, ha il flusso di ciò che avviene nel paese. Più o meno nel paese, diciamo, nel mondo della comunicazione. Nel paese è un'altra cosa. Mussolini. Colpo di Stato. Voglio sentire subito Mussolini. Il colpo di Stato. Cosa è il colpo di Stato? È stato un colpo di Stato oggi. Dove? In una località turistica. Ma no, veramente ieri era. Tu leggi le cose sui giornali che sono successe però il giorno prima. Ma il colpo di Stato? Sì. Dove andò anche il signor Rutelli, sì, dove andò il signor Schifani. Approfondiamo questo punto del colpo di Stato. Alle Maldive. Cioè, no, non mi interessa. Dramma Maldive. Mussolini, se chiedevo al mio cane se nevicava a proposito della polemica. Basta con questa polemica sulla neve. Oggi addirittura la magistratura, sì, ha aperto un fascicolo. Contro la magistratura ha aperto fascicoli su tutto. Carcerazione preventiva per i fiocchi di neve, potrebbe fare. Non lo so. No? Se chiedevo al mio cane se nevicava, mi diceva di sì, Mussolini. Apparentemente contro Alemanno, apparentemente poi sarà Mussolini. Che potesse nevicare a Roma lo sapevano tutti. Se io chiedevo al mio cane Judy, nevicherà venerdì a Roma, quella ti rispondeva. Allora lo sapevano tutti, attrezzatevi. Allora Gabrielli anche che va da Monti a piangere. Allora noi passiamo in Italia o da Bertolaso che ancor prima del terremoto va a bussare alle porte e c'è, a Gabrielli alla protezione di essere padrone. Allora, io non voglio parlare della questione Alemanno, perché secondo me Alemanno è vittima della sua comunicazione, più che poi di una responsabilità concreta. Questo io lo dico dal primo giorno e sono ancora convinto che più di responsabilità concreta, che ne avrà sicuramente, che il sindaco è sempre responsabile, credo, è soprattutto vittima della comunicazione e del tipo di comunicazione che ha fatto nei giorni successivi all'evento. Di Pietro, a proposito della questione dell'inciucione. Sì, a questo è più appassionante. L'inciucione, cioè di queste trattative tra PD e PDL sulla legge elettorale futura. Questo fa incazzare anche la argomento Lega. Di cui si parla moltissimo nei bar. Sì, anche oggi infatti ero. La legge elettorale, la gente è preoccupatissima della legge elettorale. In via del Tritone, mi hanno fermato. Dice, ah, glielo dica a Cruciani. Dico, di che cosa? Non si arriva a fine mese. Dico, ma come a fine? Ma ancora con questa cosa dell'economia. Ma c'è la legge elettorale. Mi stava per tirare una borsata sulla testa. Di Pietro. Scorporo, perché non parliamo dello scorporo? No, ad esempio. Scorporo. Un approfondimento sullo scorporo. Questa idea, cioè di farlo fuori dall'aula parlamentare, fuori dalla commissione competente, ma dietro un piatto di pasta asciutta alla matriciana o alla carbonara, a me pare che sia proprio da carbonaro più che da democrazia. Va bene, Di Pietro, notamente, siccome non è coinvolto in questa cosa e in realtà vorrebbe, nonostante quello che dice, la stessa identica legge elettorale che c'è adesso, come quasi tutti in realtà, quasi tutti. E siccome è escluso da questo tavolo, naturalmente protesta. Il professor Vaciago ieri sera a Ballarò, grande economista Vaciago, all'interno di un ragionamento che riguarda i giovani, non so che cosa, parla del militare, del servizio militare. Sentite. Abbiamo perso una grande occasione quando abbiamo abolito il servizio militare. Era dove i giovani maschi imparavano a funzionare. No, attenzione, non sto proponendo il ritorno alle armi, ma no, i giovani maschi, anche perché io l'ho fatto, non è che avessi imparato chissà che, a funzionare in condizioni di eccezionalità. Dovevamo fare un grande servizio civile, fare anche solo 6 mesi nella vita, come ci si muove in modo disciplinato in condizioni non normali. Nessun italiano lo sa più. Vabbè, su, dai, adesso non è che i giovani sono meno preparati alla vita perché non fanno il servizio militare, se il senso era questo, no? Cioè, non è che... Beh, io non ho fatto il servizio militare, però è giusto fare un grande servizio civile. Io l'ho fatto, cioè... ma insomma non mi pare che... È giusto. È stato giusto abolire il servizio militare, punto e basta. Il servizio militare è obbligatorio, basta, non si discute. Ma infatti fare un grande servizio civile, cioè servire il proprio paese. Vabbè, questo è un altro discorso. A 18 anni è una cosa bella. Allora, abbiamo il primo ospite della serata, lo presentiamo in questo modo, perché fu citato, non lui, il suo cognome, da un famosissimo film. Scusa, levami una curiosità. Chi te l'ha detto quel fatto, Giacchetti? Pillulara che stai nervoso? No. Non mi ricordo, ma. Ti ha detto quell'imbecille di Giacchetti? No, non me l'ha detto Giacchetti. Infatti, comunque Giacchetti è bocciato, perché. Ma no, non me l'ha detto. Ma non ti preoccupare, non è che lo boccio per questa cosa qua, perché è bocciato dall'inizio della. Quando è entrato in classe, ho detto questo lo boccio. Perché è istinto, so già chi vuole, chi passa. Sì, vabbè, fossero stati Giacchetti comunque, sì, ma amici, tu oggi dici, guarda, l'ha detto Giacchetti. E allora dove è stato Giacchetti? Va bene. Roberto Giacchetti, deputato del Partito Democratico, buonasera. Diciamo il titolo di questo film non la mette molto bene questa sera. Com'era? Non ci resta che piangere. Ah, non ci resta che piangere. No, è adattissimo, è adattissimo alla fase che stiamo vivendo. Ma scusa, mi sono già beccato senza parlare dell'imbecille. Scusi, Giacchetti, lei che è considerato il deputato meno elegante del Parlamento. No, non si capisce perché. No, è vero. È vero? Sì, sì. Lei ammette, sono il deputato meno elegante. Io chiamo a testimone Versace, che dice, è una bravissima persona, bisognerebbe soltanto rivestirlo, ha detto da Versace. Dunque è vero, lei ammette di essere, ma lo fa apposta? No, è che proprio è un argomento che non mi appassiona particolarmente. Cioè, quando lei deve scegliere una giacca o un qualcosa, scende, come sceglie? Sì. Compio uno sforzo grandissimo nel cercare di accostare i colori, quello sì. Quello sì? Quello sì, perché è proprio il cazzotto in un occhio non mi piace, ma per il resto sicuramente... Oggi c'è una giacca grigia, una camicia a righine bianca e blu, che non c'entra nulla, e un jeans, eccetera. Ma perché lo stile radicale. E la cravatta pure uno sforzo pazzesco? La cravatta riesco a giustificare col fatto che soffro di claustrofobia. E però questo vale per la Camera, dove ormai l'ho imposto. Al Senato non mi fanno entrare. Ma chi è? Ah, quindi lei al Senato non può entrare? Io se non ho la cravatta non posso entrare. E una volta per protesta ho detto bene, allora me ne vado, e me ne sono andato. Senta, Giacchetti, prima di affrontare altri temi, però voglio risolvere questa questione. Ma c'è qualcun altro vestito, secondo lei, peggio di Roberto Giacchetti alla Camera? Assolutamente sì. Cioè, per esempio? Beh, ci sono quelli. È tornato. Uomini, ovviamente. Sì, assolutamente. No, anche donne. Per esempio ci sta Tanoni. Italo Tanoni, adesso dal mio punto di vista si veste peggio di me, perché ha dei gessati assolutamente improbabili. Da c'era una volta in America, diciamo. Però magari dal suo punto di vista, dal suo punto di vista magari invece si veste benissimo, quindi diciamo bisogna vedere qual è il punto dal quale si osserva. E invece qualcuno che ha delle scarpe tremende? No, adesso non c'è. Colorate magari, no? Aspetta, no, chi c'è? Deputata che si veste proprio in modo orribile, la più volgare di tutti. Vi pregherei di evitarmi questa domanda. Ce ne sono alcune che si vestono anche loro in modo improbabile, ma non volgari, un po' eccessivo. Per esempio, c'è una deputata dell'UDC, Santolini, Santolini, quella del Forum delle Famiglie, esattamente. Sì. Che si veste in un modo molto? Diciamo, fin troppo sobrio. Cioè... Sì, nel senso colori abbastanza spenti, cose. Però adesso non vorrei che domani. Adesso domani, no. Ragazzi, io non ne posso trovare. Ma è dell'UDC, forse. È dell'UDC. Ma no, uno dell'UDC come deve vestire? Bello anche questa cosa. Sì, perché uno dell'UDC te lo immagino un po' vestito in modo sobrio, color melanzana. Adesso c'è anche la Carlucci nell'UDC. Lei come veste? Non sarà certo sobria con i colori, come viene un po' troppo ma non lo so, ma ognuno viene come vuole, ognuno viene come vuole, questo non c'è dubbio. Va bene, siamo qui 800 24 00 24. Roberto Giacchetti è già radicale, conosce braccio destro di Rutelli, sì, grande amico anche di Rutelli, forse ora Un po' meno. Perché lei non è andato all'API con Rutelli? Perché io sono entrato nel Partito Democratico, ho fatto anche uno sciopero di 46 giorni perché fosse costruito il Partito Democratico, e nonostante le tante... sciopero per il PD. Io feci uno sciopero della fame perché siccome si cincischiava per lo facciamo, pensavo che quello sarebbe stato il più grande progetto per questo paese, e ho pensato che fosse utile metterci qualcosa. Lo rifarebbe? Io penso che quel progetto era e rimane un grande progetto. La declinazione di quel progetto purtroppo negli anni non ha funzionato, ma non dispero che magari diciamo, rimettendo in sesto un po' di cose ci si riesca. Comunque io sono una persona che all'interno del Partito Democratico dico quello che penso e qualche volta mi capita di non essere... Vabbè, ma quello è normale, è considerato un eretico all'interno del Partito Democratico. Però non per questo me ne sono andato con Rutelli, perché ho pensato che fosse una scelta sbagliata. Glielo ho anche detto. E i rapporti tra di voi come sono adesso? Non ci sono più, perché da quando io ho preso questa scelta a fatica ci... mi saluta, però... Sì? Come? Sì. Vabbè, cioè, rotto un'amicizia trentennale. Una rottura. Voi tenete conto che ho iniziato con lui diciamo, a fare politica nel 79, sì. Quindi diciamo avevo 18 anni. E appunto, quasi sì, però voglio dire, sì, io capisco pure, se lui ha fatto una scelta diversa, probabilmente... E non vi, non vi salutate più. No, adesso non esageriamo. Lui non saluta Giachetti. Non esageriamo. Se l'è presa perché lei non è andato nell'altro, diciamo la verità. Penso di sì, presumo di sì, però non so. Adesso non avete mai parlato? Non mi pare che sia un problema. Beh, no, no, no, tema non è un problema fondamentale per l'Italia. Giachetti, penso, io penso che al bar dove hai parlato, dove hai sentito oggi le voci, non discutono di questo. No, questo no, questo sicuramente... Anzi, secondo me non gliene frega niente a nessuno. Però devo raccontare un aneddoto personale. L'amicizia tra Giachetti e Rutelli è talmente forte che quando io conobbi Roberto Giachetti, Roberto Giachetti, anche questo non è di interesse mondiale, tentò di investirti, era capo del gabinetto come parli? Del gabinetto del sindaco Francesco Rutelli, ed era ferocissimo Giachetti, soprattutto nel proteggere come dire, la comunicazione di Rutelli. Io ero, come dire, lavoravo in un giornale che faceva che criticava qualche piccola critica Liberal, no, cos'era? No, l'Indipendente. Vabbè. Gli aneddoti di Cruciani. No, vabbè, ma non è importante. Lei invece conosce anche Lusi da quanti anni? Beh, dal 93. Cosa significa il dottor Jack e Mr. Hyde, Lusi? Perché? Significa l'espressione che ha tirato fuori lei per prima. Sì, ma perché la verità, perché se mi avessero detto che Lusi era stato arrestato perché aveva picchiato un vigile che gli aveva fatto una multa che lui riteneva ingiusta per strada, ci avrei creduto. Se mi avessero... Perché è un carattere... Fumino. Irascibile. Sì, è una persona molto, caratterialmente molto, molto forte, e però proprio in ragione di questo... tutto mi sarei aspettato tranne questo, anche perché, ripeto, io l'ho visto all'opera a condurre, anche quando lavorava con l'assessore Piva al Comune di Roma, che si occupò della riorganizzazione dei campi nomadi, che è un argomento che tu che hai conosciuto, sì, come è una roba molto tosta. Lui, diciamo, era una persona rispettatissima e che ha fatto un grande lavoro, che certo il problema dei nomadi non lo risolveremo mai a Roma, però portò dei cambiamenti sostanziali. Cioè, tu fino all'altro giorno lo consideravi una persona onesta? Sì, cioè, assolutamente. Avresti messo due mani avresti messo la mano sul fuoco, sì, tu, sulla sua onestà? No, la mano sul fuoco io non la metto per nessuno, però, però vi posso garantire che gli avresti mai affidato i tuoi soldi, per esempio. Ecco, questo sì. Una persona a cui avresti affidato i tuoi risparmi. I tuoi risparmi. Bene, la Zanzara 800240024, ripeto, è con noi uno dei protagonisti di uno dei film, diciamo, più straordinari della storia del cinema. Protagonisti magari. No, no, protagonisti, perché veramente Benigni e Troisi si riferivano al giovanissimo Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico. Nessuno lo sa, lo riveliamo noi. Scusa, levami una curiosità. Chi te l'ha detto quel fatto, Giachetti? Pillulana Gassai nel buio? No, no. Non mi ricordo di mai. Ti ha detto quell'imbecille di Giachetti? No, non me l'ha detto Giachetti, veramente. Comunque Giachetti è bocciato, perché... Ma no, non me l'ha detto. Ma non ti preoccupare, non è che lo boccio per questa cosa qua, perché è bocciato dall'inizio della... Quando è entrato in classe ho detto questo lo boccio. Vabbè. Perché è istinto, so già chi vuole, chi passa. Sì. Vabbè, fosse stato i Giachetti comunque, sì, ma amici, tu oggi dici, guarda, l'ha detto i Giachetti. E allora dì. È stato i Giachetti. Va bene, imbecille, bocciato. Devo dire che Giachetti, lei consegnerebbe i suoi denari a Luigi Lusi, detto con tutto rispetto, un po' imbecille. Detta oggi. A posteriori. Però adesso, tornando serio, perché il problema è serio. Tra l'altro Lusi mi diceva nell'intervallo, questo si può dire, ha due figli che hanno la sua età, no? E lei è un po' preoccupato da questa cosa? Hanno da che due cosa? Figli che hanno l'età. No, guardi, voglio dire questo. Ovviamente questa vicenda sta portando, come è giusto che sia, diciamo, fa emergere un problema, che è il problema del finanziamento pubblico. Sì. Poi, andrebbe abolito, parentesi. Assolutamente sì. Io ho anche raccolto le firme. Io penso che sarebbe la soluzione migliore fare una cosa del tipo il 5 per 1000. In maniera che volontaria. E non con la suddivisione automatica. Lo darebbe qualcuno, secondo lei, 5 per 1000 partiti? Ma questo è importante, perché significa che ci sarebbe anche un vero radicamento dei partiti rispetto, perché i partiti che convincono gli elettori a farsi dare questo, come un po' avviene anche per le onlus, sono delle onlus che prendono di più, le onlus che prendono posizione di più. Minoritaria nel suo partito, questo qua, perché il suo partito vuole mantenere comunque un finanziamento pubblico, tutti i partiti. No, ecco, non il mio partito, tutti i partiti, tutti i partiti. Se mi consenti, diciamo, sentire oggi un po' tutti che, dopo che è successa questa vicenda, si pongono il problema di rivedere il finanziamento pubblico, mi domando se era necessario questo, per rendersi conto che è stato completamente snaturato comunque. Questo lo dice anche a dirigenti del tuo partito. partito. Che io l'ho già detto ai miei dirigenti del mio partito, quindi non ho nessun problema. Cioè, l'ho detto in silenzio. Si svegliano adesso tutti, sul finanziamento. Tutti, compreso Di Pietro, che ci fa il moralista. E diciamo, è vero che la Margherita era un partito morto. Perlomeno, diciamo, il Partito Democratico era un partito che prende una tranche. Sì. Alcuni partiti, Italia dei Valori, Lega e UDC, tanto per fare il caso, sono partiti che per 3 anni prendono doppia tranche di finanziamento pubblico. Di rimborso, diciamo, sì, sì. Quello del 2006-2011 sovrapposto 2008-2013. Allora, la quantità di soldi che viene, come dire, riversata è un problema di tutti, e tutti queste leggi le hanno votate, tranne i radicali, devo dire la verità. Lei mi sta dicendo che però pensa in questo momento, ha pensato alle figlie di Lucia, ai figli di Lucia. Guardi, siccome è chiaro che appunto deborda nell'informazione tutto, io ho fatto un pensiero, siccome le ho conosciute quando erano piccole, perché hanno l'età dei miei figli. Io ho pensato, delle creature innocenti, cosa significa andare a scuola, avendo credo 17-16 anni, invece andare a scuola il giorno dopo che è uscito, no, che sono usciti i titoli su tutti i giornali, ladro, appropriazione indebita, facendo. Ovviamente voi mi potete contestare, vabbè, ma è quello che è successo, però diciamo, quelle poverine non c'entrano nulla e l'impatto, non lo so come si fa, non sono in grado. Io mi ponevo semplicemente, pensavo qualunque cosa dovessi fare io di brutto e via dicendo, che cosa potrebbe significare nel rovinare anche un pezzo di esistenza di miei figli che non c'entrano nulla, che non fanno nulla. Questo vale per ciascuno di noi, per tutte le persone che varie ragioni possono essere o possono cadere in determinate cose. Senta Giachetti, ma lei crede a Rutelli quando dice, ha detto a Lilli Gruber a 8:30 che lui davvero non sapeva nulla, pur essendo contestatario del conto, pur essendo il presidente della Margherita, eccetera eccetera, cioè, che errore ha commesso Rutelli? No, allora, l'errore e mi infilo dentro assolutamente a pieno titolo la responsabilità, ovviamente penso di tutti noi, ovviamente ha fatto accaduto, sua è minore di quella di Rutelli che è presidente. Facciamo parte di una classe dirigente che comunque attraverso questo episodio della quale siamo vittime, però abbiamo contribuito inevitabilmente a portare ulteriore discredito alla politica, e noi ce ne dobbiamo fare carico a prescindere dai ruoli che abbiamo avuto, perché siamo dentro una vicenda politica, e chi con più responsabilità, chi con meno. Però io le dico francamente che esattamente come io, se lei me l'avesse chiesto, gli avrei detto non esiste, comprendo perfettamente, anche se Rutelli aveva delle responsabilità diverse, che lui caschi dalle nuvole esattamente come ci casco io, nel senso che c'era una fiducia piena in questa persona. Dopodiché io ho sentito dire, ovviamente, no, quello ha contestato, quello non ha contestato. Vorrei chiarire questo. Ecco. Se qualcuno avesse avuto la sensazione che mancavano 13 milioni da perché lì, non si è svegliato avesse, prima? No, e avesse parlato di opacità, forse sarebbe. Beh, Parisi lo fece. No. Vorrei Parisi dire lo questo. Fece, però. No, è questo il tema. In qualunque partito il bilancio diventa, come dire, il terreno di uno scontro politico. Non ha fatto nessuno scontro. Dico semplicemente che non c'è sta. Non è che qualcuno si è reso conto che mancavano 13 milioni. Quindi Parisi è un furbone quando oggi sui giornali. Parisi prova, allora io dico che Parisi a suo tempo. Io glielo ho anche detto. Glielo chiedo perché in questi giorni è uscito che Parisi dice: io ero l'unico. Non è solo Parisi, è Parisi, è Castagnetti. Mano a mano. Oggi ho letto che Tanoni vuole. Io non voglio dire un problema di furbizia o non furbizia, voglio semplicemente dire che palesemente, sono convinto, nessuno immaginava che quello fosse il problema. C'era qualcuno che era insoddisfatto per una cosa, per una voce, dicendo, e ha sollevato dei dubbi, delle contestazioni, dicendo che poi comunque hanno portato, che comunque il bilancio sta approvato. Sono sicuro che Parisi, come Giachetti, come Rutelli, come chiunque altro, se avesse percepito che mancavano 13 milioni, non avrebbe detto c'è un'opacità, c'è un problema, dicendo, si sarebbe incatenato, avrebbe chiamato i carabinieri, avrebbe, dico per dire, Parisi, no? Incatenato, è difficile immaginare. Invece a Rutelli i suoi soldi li affiderebbe, cioè crede nella onestà assoluta da questo punto di vista di Rutelli? Io ripeto, credo nell'onestà, a prescindere da tutto, sono una persona positiva e credo nell'onestà di tutti fino a prova del contrario. Avendo vissuto un'esperienza politica con Rutelli, non sottovalutiamo che noi abbiamo, anche dal punto di vista della gestione della cosa pubblica, gestito una vicenda in Campidoglio con il Giubileo, con i finanziamenti del Giubileo, dicendo, adesso al di là di una contestazione della Corte dei Conti per delle consulenze, in tasca non se ne è messi, è pronto. Ovviamente per quello che io, per come ho conosciuto Rutelli, per come ha lavorato, per la squadra che ha messo, vorrei dirle che quando noi ci insediamo la prima volta fu fatto un codice di comportamento perché nel firmare i contratti, dicendo ci impegnavamo a non recepire regali di qualunque tipo che fossero sopra i 50.000 lire. Dal punto di vista politico, però, Rutelli è danneggiato da questa storia, indubbiamente. Beh, certo, molto danneggiato. È danneggiato Rutelli, è danneggiata la Margherita, è danneggiato il Partito Democratico, è danneggiata la politica. Più, diciamo. Non esiste più, ma è un'esperienza Rutelli importante. Dopo questa cosa qua, può avere un futuro politico ancora? Sì, assolutamente sì, perché diciamo qualcuno, a meno che non si dimostri che lui abbia qualche responsabilità, cosa che io non credo. No, responsabilità penale, non sto parlando, però ci sono anche delle responsabilità politiche, no? Cioè su questa vicenda qua. Ma la responsabilità politica, oggi abbiamo la dimostrazione che il miglior partito, quello più pulito e via dicendo, ha avuto una vicenda identica, cioè un signore, il tesoriere del Partito Radicale, sì, è stato condannato per appropriazione indebita perché ha usato per 200. Allora anche nel partito dove c'è più controllo, nei congressi radicali, si passano giorni a fare questo lavoro. Merito a loro che lo hanno denunciato, se ne sono accorto prima però non toglie che il meccanismo consenta a un signore di fare prendersi i soldi. Siamo qui da Zanzara, 800 24 00 24, con chi? Roberto audio via. Roberto, e mandatemela Ron. Roberto, scusa, levami una curiosità. Chi te l'ha detto quel fatto, Giacchetti? Pillulata che stai nervoso? No, non mi ricordo. Ti ha detto quell'imbecille di Giacchetti? No, non me l'ha detto Giacchetti. Infatti comunque Giacchetti è bocciato, sicché. Ma no, non me l'ha detto. Ma non ti preoccupare, non è che lo boccio per questa cosa qua, perché è bocciato dall'inizio della... Quando è entrato in classe ho detto questo lo boccio. Perché è istinto, so già chi passa. Sì. Vabbè, fossi stati Giacchetti comunque, sì, ma amici, tu oggi dice, guarda, l'ha detto Giacchetti. E allora non è stato Giacchetti. Va bene, va. Eh beh sì, con Roberto Giacchetti, deputato. Il titolo, il titolo della cosa di oggi è Giacchetti querela Benigni. Potete pure perché vedere. Querela Benigni? Perché me l'ha detto, ormai è ripetuto. Imbecille, esatto, bocciato. Non ho sentito bene, si può rimandare il... il minimo che posso fare è a questo punto querela Benigni. Si è autodefinito il deputato meno elegante. Veramente, e me ne vanto pure di non andare, di non scegliere le giacche. Me ne frego di vestire bene. Ma non è una cosa snob. Al massimo lei quanto ha speso per una giacca? Mi dica la verità. Adesso mi fa dire una cosa, io 100 euro. L'unica giacca buona che ho che non è quella che hai indosso, no, infatti me l'hanno regalata per il mio compleanno. Come si chiama? Meyer, come si chiama? È una cosa famosa che c'è qui a Roma, non so manco come si chiama. Io normalmente le giacche le compro da Zara. Ah. Quindi non so adesso. Siamo al proletariato della camera. No, perché è la cosa più comoda, nel senso che io vado lì, me le scelgo. Qualche volta succede anche che, siccome mi vergogno di provare gli abiti. Esatto, sì. me le guardo, faccio finta siano bene, sì. E poi torno a casa e ho delle giacche più grandi che magari mi capita di regalare. Ma questa barba incolta è una cosa fatta che voi non la potete vedere là. Sì, voi che siete in ascolto in nelle vostre macchine a casa con le vostre mogli, con le vostre fidanzate, amiche, eccetera. A casa con la radio, oppure anche streaming, eccetera. State eccetera. Cucinando i tortellini per il oppure vostro... il ma risotto. Fai la domanda perché ho una risposta interessante. Perché è questa barba che voi non potete vedere, è una barba voluta per fare figo oppure no? Perché una volta una mia amica mi ha detto: ma hai visto quanto è figo Cruciani con quella barba? T'ha fregato. E io perché siete uguali. Io abbiamo lo stesso fisico, no? Perché io sono più asciutto di lui, certo. Perché corriamo. Siete due maratoneti. I titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Alla Camera fiducia sul decreto svuota carceri, urla della Lega in aula, il governo e l'associazione magistrati, cambieremo la norma sulla responsabilità civile, la riforma elettorale, Bersani non si può votare con questo sistema, Bossi avverte il PDL, in gioco l'alleanza e le amministrative. Monti e Fornero, entro marzo riforma del mercato del lavoro, Confindustria e sindacati cercano una linea comune, ma c'è lo scoglio dell'articolo 18. Corsa contro il tempo per evitare il fallimento della Grecia, forse stasera l'intesa sui nuovi tagli, domani riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Da venerdì nuova ondata di gelo, previste nevicate a Roma, a Torino metro bloccata, bora fortissima a Trieste, inchiesta della procura sui disagi nella capitale. Ancora molti comuni isolati, tira a rilento nel Foggiano per la neve, Monti promette fondi per la protezione civile, chiede la collaborazione di tutti i ministri. In Siria il regime continua il massacro, colpite intere famiglie, perseguitati anche i medici, il Nobel per la pace, il TG3, sanzioni a Damasco. Eh Eccoci, allora, domande flash, perché poi lasciamo Roberto Giachetti, che freme già per la partita della Roma che inizia alle 20 a Catania, essendo un super tifoso della Roma. Lei ha l'abbonamento, Giachetti? Certo. Dove? Tribuna Tevere. Tribuna Tevere, Prima ce l'aveva in curva sicuramente. Quando ero bambino. Quando era bambino, adesso se lo può permettere. Però sì, non Monte Mario, non può. No. Tevere. Tevere, No, lei... anche perché Monte Mario ci stanno tutti quelli vicino, quelli che vanno in quei altri posti. No? Lei condivide questa passione per la Roma con Cicchitto, ad esempio, no? No, perché io lo vedo dall'altra parte, Cicchitto. Io sto da quest'altra. Ah, perché Cicchitto è in tribuna VIP. Però dice Cicchitto che si paga. No. Cicchitto va, lui dice che va nella tribuna VIP, sì. Però si compra l'abbonamento per la tribuna Montemario, che sì. Diciamo è una forma. Bravo. Io preferisco stare in mezzo, siccome io dico un sacco di parolacce. Slogan, ecco appunto, lo slogan allo stadio dice un sacco di parolacce, non vuole anche dico, contro gli arbitri, gli avversari, contro gli aziani. Sono assolutamente sì, come per strada quando lì dico che la gente che va in macchina in moto e via dicendo, mi comporto assolutamente come un qualunque cittadino. E cioè che si incazza e dunque non vuole e quindi quando... fare la parte del deputato in Montemario inquadrato mentre insulta qualcuno. La parte del deputato ormai di questo periodo conviene. Ecco, cosa le succede quando va per strada e magari qualcuno la riconosce? Fortuna, ho la fortuna che non mi conosce nessuno, non mi riconosce nessuno, per cui l'unica volta l'unica volta è stato qualche giorno fa al supermercato, che una signora, una ragazza mi ha riconosciuto, ha fatto: ah, però è lei. Dico sì, dice: beh, dal vivo è molto peggio. Ah, così? Cosa pazzesca. E lei? E ho detto: vabbè, ma anzi non mi ha detto sei un ladro, sei un assassino. Senta, ma a proposito di Rutelli, che vuol dire, si può dire il suo mentore politico, no? Sì. Si può dire il suo mentore politico? Sì, diciamo si può dire. Sì. È stato il mio mentore politico. Beh, insomma, insieme a tanti altri nella vita. Quanto bene gli vuole bene, no, Rutelli, anche? Ma adesso che stiamo a fare la cosa, non gli vuole più bene a lui. Ma io voglio bene a tutti i miei amici, a tante persone. Non gli vuole più bene. Ma chi? Ma cosa fa? Adesso la cosa, Giachetti, anzi, nella stanza del Grande Fratello, Giachetti, Francesco. Questa è la zanzara, una casa di grande presenza. Potremmo dare una canzone per cosa? Per Antonello Venditti, Francesco, non ti voglio più bene. Ah, ma lei canta anche? No, non t'azzardare. No, chiedevo. Allora, però è vero che è attento ai soldi, un po' tirchio, diciamola tutta. Chi? Rutelli. Ma non lo so io. Come no? Ma non lo so. L'ha mai offerto una cena? Ma sì, che mi ha offerto una cena. Però è vero che è un po' tirchio o no? Ma io non lo so, ma che... Cioè, voi non lo sa. Non ne ho la più pallida idea. Ma come uno che vive, politicamente vive mica vivevo a casa. Io ho fatto politica con Francesco un sacco di tempo. Ma nel mio frequentarlo... Non confermo, vabbè. Neanche magari attento alla pecunia, al denaro. Ma tutti siamo attenti alla pecunia, al denaro. Lei non è attenta alla pecunia. Ma io proprio anche dello stereotipo, lo stereotipo ebraico anche, no, della persona a te, lo dico io, attenta al denaro, lo massacro costantemente, perché anzi sono una persona qualche risposta flash. Allora, si può dire che i partiti spendono in maniera totalmente irregolare, fuori dalla legge, per i soldi del finanziamento pubblico? Irregolare nel senso che la missione della legge è stata fatta dopo il referendum, non era finanziamento pubblico, era rimborso per le spese elettorali, poiché prendono molto di più di quanto hanno speso durante le vivono nell'illegalità e questi soldi li utilizzano anche per la normale attività politica, come è normale, che non è illegale, per essere chiari, però sicuramente non è rispettoso di quello con cui è stato fatto la legge per... non è rispettoso e dunque vivono sostanzialmente quasi nell'illegalità. Sì, è una illegalità non rispetto all'utilizzo che fanno ma rispetto alla ratio della riforma che era stata fatta, che prevedeva che... Cioè li spendono per cose non previste dalla legge. Certo, perché... Che era il rimborso per le spese elettorali, che sono sempre inferiori ai soldi che gli danno. Esattamente. Beh. Allora chi dice che è criminale? Allora chi dice che è criminale non è che usa un'iperbole in questo caso. Cioè, se dei soldi erano destinati per una determinata spesa, invece vengono utilizzati per i convegni. Questo non è che lo dico io. La legge che è stata fatta era una legge che diceva che vi era un rimborso valutato sulla base dei voti delle spese. Se poi questi soldi sono di più di quanto hai speso e in più vengono utilizzati per la normale attività politica, cioè per essere chiari, non è legale che li usano per andare al cinema. Li usano tutti i partiti per fare attività politica, però i soldi non sono dati per quello. Dunque si può dire che i radicali, anche i radicali, come abbiamo visto, predicano bene e poi razzolano un po' male. No, non c'è dubbio che dentro i radicali c'è chi razzola male e riesce a razzolare male, perché se questa persona è stata condannata e ora gli fanno causa a posteriori, vuol dire che anche lui ha potuto fare, dentro i radicali, che pure hanno mille controlli, qualcosa per il quale viene condannato. Senta, il vitalizio le servirà a lei? Penso di sì. Per campare, sì. Beh, quando ci avrò 60 anni per avere una pensione, perché io lavoro da 18 anni e come tanti, e sicuramente questo è un privilegio rispetto a tanti altri che non hanno fatto versamenti non perché non volevano fare, ma perché avevano dei contratti. Dunque non è da eliminare il vitalizio? Il vitalizio è stato già eliminato. No, è stato ridotto. No, il vitalizio è stato eliminato. Sì, ma... Quindi tutti coloro, dal primo gennaio, nessuno di noi ha più il vitalizio. È rimasto il vitalizio per la parte acquisita, che comunque, voglio dire, è diverso. Cioè, non stiamo più parlando dei 6.000, 7.000. È stato il metodo è stato cambiato. Sì, non c'è più il vitalizio, c'è il contributivo. C'è il contributivo, vabbè, comunque. Quindi la parte, rimane la parte... È giusto che prendano una pensione i deputati per il lavoro che hanno fatto, secondo lei? Sì. È giusto che i deputati prendano una pensione, sì, perché fanno un lavoro. A lei comunque servirà. Cioè, a me servirà, come a qualunque persona che lavora avrà bisogno della pensione, perché no? Dunque, lei ha ben presente che. Cioè, lei mi vuole far dire, per lei vuole mantenere il vitalizio. Il vitalizio non c'è più. E io... No, il vitalizio, no, la vitalizio, pensione, insomma, chiamiamola pensione per il deputato. Ecco, no, io dico che il deputato ha diritto a una pensione come qualunque lavoratore. Il vitalizio era palesemente una cosa che ovviamente stonava perché sbagliata, era diversa facendo, però non vedo perché un deputato non deve avere la pensione lavorando come qualunque altro. E quelli che hanno una pensione da un altro lavoro? Esattamente come chi c'ha un altro lavoro, secondo me, non dovrebbe fare un altro lavoro. Oppure non dovrebbe prendere la pensione da deputato. Beh, è del tutto evidente, diciamo, si dovrebbe scegliere sempre. Se uno fa un mestiere, deve fare quel mestiere. Cioè, io il cumulo sia delle cariche sia delle cose, via dicendo, è una cosa che non. Senta, la foto di Vasto è una cosa che non potrà mai più esistere. È scomparsa definitivamente la famosa foto di Vasto. Sì, no, diciamo, io personalmente me lo auguro. Sì. Nel senso che io non penso che quella fosse una prospettiva. Viste anche in particolare le posizioni dell'Italia dei Valori, ma chi c'è di troppo in quella foto? Beh, Vendola, per me, Di Pietro, per me sicuramente Di Pietro. Di Pietro è di troppo, ed sarebbe da ritagliare. Rispetto a quello che io penso sia il progetto del Partito Democratico e il futuro, diciamo, di questo paese, anche in termini di. Quindi Vendola Bersani va bene, Di Pietro va ritagliato. Vendola Bersani va bene, sicuramente Vendola Bersani avranno bisogno di qualcuno. Però diciamo, se devo scegliere, se rimanga devo sul scegliere, trattore, possiamo dirlo, rimanga sul... dalla torre, tra virgolette, scelgo Di Pietro. Senta, un'ultima cosa, non è sbagliata questa cosa PD-PDL, cioè è giusto trattare col PDL escludendo Di Pietro dalle trattative sulla legge elettorale? Ma noi abbiamo contestato il PDL perché ha fatto una legge elettorale da sola. Ci mancherebbe altro che adesso non si discuta, almeno tra PDL e PD, per fare una legge elettorale che non sia fatta soltanto da 50%. Dunque, se Di Pietro resta fuori da queste trattative, non c'è niente di strano. No, ma Di Pietro si chiama fuori, come fa sempre, perché se Di Pietro volesse partecipare a un ragionamento sulla legge elettorale, gli è stato anche chiesto. Mi pare che sia lui che dice che non gli piace. Va bene, grazie a Roberto Giachetti. Forza Roma. No, Forza Roma. Beh, cosa? Vabbè, cioè, Forza Roma di che? Cioè, sembra come i leghisti che dicono Buona Padania. Come Forza Buona Padania, come Borghezio che finisce e inizia le sue conversazioni in quel modo. La Padania. Senta una cosa, ma mi dica la verità: è Tirchio Rutelli? Aridai, quanto è Tirchio? Ma che ne so io, ma come è Tirchio? Ma come fa? Ma è così, ma che ne so, ma di me pure, non lo so, sei Tirchio. Grazie. Ecco, senti, la zanzara. La zanzara. L'ho cambiata, hai visto? Christian Jansan, è cattiva. La voce di Radio 24. Si è intrufolato nello studio. La rifaccio un po'? Com'è? La zanzara. E se voi diventate sempre più cattivi, allora io adesso incattivisco anche la sigla. Sì. Però fai bene, Cruciani, fai bene a bastonarli, specialmente quelli che non sanno coniugare i verbi. Vai. Sono sempre dalla parte la di Cruciani, e ve lo dico subito. Non è ancora un reato. La sigla più cattiva è. La zanzara. Tanta roba. Non è male. Ma chi ha doppiato fa anche il doppiatore nella vita, signore. No, io faccio si chiama così. No, come si chiama, signore? Christian Jansan. Sì, però fate bene. Mi piace fate, poco. Fate bene a darmi il signore perché sono più grande di voi, quindi allora? dovete darmi da lei. No, dunque, io faccio il doppiatore, poi da 6 anni sono anche la voce di Radio 24, ma è un più cattivo questa zanzara, ancora più cattiva. Ma più cattiva. Oppure erotica. La faccia erotica. Ah, dalla faccia erotica. Io mi devo alzare la cuffia. Però mi devo alzare la cuffia perché io siamo sempre. Io ascoltatori, amo è sempre la zanzara 800240024. Si è intrufolato, purtroppo, un signore che si chiama Christian Jansan. Adesso te la faccio. Che ha una voce meravigliosa. Adesso fa la zanzara erotica. Silenzio, per le donne. La zanzara. La zanzara. Vabbè. Beh, tanta roba. La zanzara. Beh, è tanta roba. Basta, perché sennò sembra che nella vita io dico solo la zanzara. Sì. Bene, Gabriele da Lucca, buonasera. Gianzante. Una brava persona. Gabriele? Vada. Sì. No, volevo parlare dell'articolo 18. No, l'articolo 18, no, l'articolo 18 era comunque... Parli del golpe in corso, no, alle Maldive. Mi sembra che spesso si fanno delle assimilazioni, si toglie l'articolo 18, aumenta la competitività, aumenta la produttività, aumentano le assunzioni. Volevo ricordare che nel 92 è stata tolta la scala mobile con l'accordo della CGIL. Invece nel pacchetto 3 è stato anche quello approvato. Ma quale accordo della CGIL? Nel 96. Ma quale accordo della CGIL? Contro la CGIL? La scala mobile nel 92 è stata tolta definitivamente, negli ultimi aspetti, con l'accordo della CGIL. Nel 96, se non mi sbaglio, c'è stato il pacchetto 3 fatto da un governo di centro-sinistra, quindi precarietà in Italia è stata fatta con l'accordo delle forze di sinistra. La disoccupazione era nel 91, sì, ma guarda, il 12%, scusi Gabriele, poi non dipende. Sì, ho capito, la soluzione non sia quella. Sì, però Gabriele, non è che tutto dipende dalla dai rapporti di lavoro, da che tipo di contratti ci sono, la crescita, l'economia va bene o va male, non dipende tutto da quello, dipende anche da quello. Nei paesi, le dico una cosa, nei paesi in cui c'è un sistema di contratti di lavoro più flessibile, quando c'è quando l'economia va bene, l'occupazione aumenta molto di più. È questo che non dicono coloro che criticano. Piccola differenza roba. Che quando in Italia l'economia andava bene e si facevano contratti precari, le aziende andavano bene e i lavoratori prendevano sempre. Se la prendevano sempre dove non batte il sole. Su questo deve dire sempre la solita stronzata. No, ma perché Antonio da Cuneo, fammi sentire. Ma chi è Antonio? Adesso il traffico, Antonio, il meteo, e la neve, e Alemanno, e i pini. Antonio dalla tua. Parenzo, guarda, vada Antonio, ti voglio difendere perché ho telefonato già ieri sera per difenderti da Cruciani. Che fossi il direttore della rete lo licenzierei, visto che lui l'ha fatto. Sì. No, è già pronta la lettera, guarda, voglio sentire ancora la zanzara erotica, un attimo, la zanzara erotica. La zanzara, ha capito Antonio, qui siamo ad alto livello. Antonio, dica. Vabbè, allora? Cruciani la butta sempre in caciara sulla pelle dei lavoratori, come al solito. Ma come la butto in caciara sulla pelle dei lavoratori? È vero. Certamente. Vabbè, Antonio, vada. Vado. Vabbè, dica comunque, la sua, questo voleva dire. Ringrazio Parenzo che difende, come confermo quello che ha detto grazie prima. Grazie di esistere, Parenzo, grazie di esistere. Il caso di quel di ieri sera che aveva un lavoratore e quindi parlava neanche... a conoscenza della legge dell'articolo 18 che prevede oltre i 15 dipendenti, quindi non lo toccava. E per cui i datori di lavoro seri che non licenziano i lavoratori che lavorano ma solito nulloni, io credo che siano soprattutto nelle piccole aziende, piccole imprese, per cui l'articolo 18 già non c'è. Va bene, Antonio, grandi, grazie. Andrea da Genova, buonasera. Grazie Antonio, sì, vabbè, ho capito. Andrea da Genova, buonasera. Buonasera, salve. Vada. Io volevo fare una piccola osservazione piccola, sugli italiani, insomma, su questo andazzo che c'è. Praticamente noi siamo sempre stati un po' truffati dalla politica, da questo mondo un po', questo teatrino della politica. Sì. Cioè, l'unica cosa che devono capire un po' i politici è di non prendere in giro la gente, che quello che dà fastidio agli italiani, a mio parere, non è tanto essere truffato, perché bene o male siamo tutti truffati, cioè fregati, però anche questa faccia che ci mettono nel prendere in giro la gente, cioè questa... Cioè lei a chi si riferisce, scusi? Ma io mi riferisco anche, non so, al fatto questo qua della Margherita, di questi 13 milioni di euro, cioè passati così un po' en passant... ma quale en passant? Ne parlano di Parigi, quale cioè non fa niente a nessuno... Ma che devono fare? Scusi, c'è un'inchiesta della magistratura, inchiesta dei giornali. È vero che tutto è stato messo in moto dalla Banca d'Italia per un controllo? Appunto, cioè quelli che adesso tuonano contro il finanziamento pubblico, come ci diceva prima Giachetti, prima dormivano, nessuno ne parlava se non ci fosse stato un mini controllo della Banca d'Italia che ha visto una movimentazione di denaro sul conto del signor Lusi un po' sospetta. Perché anche questo bisogna dire, no? Adesso quelli, non Giachetti, altri che parlano del finanziamento pubblico, eccetera, eccetera, insomma, cosa facevano prima? Prima assolutamente nulla. Dove grazie guardavano? Marco da Torino, poi Salvatore da Napoli. Marco. Innanzitutto complimentoni a Parenzo e Cruciani, siete troppo forti, siete gatto e la wolf. Siamo sempre su, siamo sempre su. La ma qui siamo... Marco. Marco sì. No, dicevo questo. No, io volevo fare un piccolo commento sul discorso del Giachetta, lì che va benissimo. Giachetti, la... che Giachetta? La Giachetta è quella che aveva indosso. Lui si chiama Giachetti. No, Roberto Giachetti. No, ma perché mi ricordavo della gag, no, di Troisi e Benigni, che quella... Ma quelli dicevano Giachetti, Troisi e Benigni. Non me lo ricordo. Comunque, vabbè, allora? Quella è comica, invece il signore lì era veramente drammatico, tragico. Perché? Che ha fatto? Che ha detto di così drammatico? Ma perché? Perché questo signore qui sostanzialmente è ancora una volta l'espressione di una classe dirigente politica autoreferenziale. Perché? Ma che ha detto? È sostanzialmente ignava. Ma perché questo? Perché cosa dice? Dice che per quale motivo alla fine tutto sommato si sono lavati la coscienza? Perché c'è stata la solita pecorella nera, quello lì che ha rubato, che addirittura nei radicali, che sono visti un po' come la cassa di asceti, no? Perché radicali digiuna e scopa male, quindi praticamente addirittura un tesoriere come dei radicali. Dice, scusi? Come dice, com'è, scusi, che ha detto, scusi, il radicale? Il radicale digiuna e scopa male. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene questa cosa? Ma Marco, sono le 19:40. Ah, non no, ho capito, era una vecchia canzoncina che cantavano nella FIGC, che dicevano, adesso me lo ricordo, perché il radicale... Perché io me la ricordo benissimo. Com'era? Come faceva? Radicale di giù a scopa male, il radicale di giù a scopa male, si diceva. E invece il Figi Ciotto con una ne fa otto, e invece il Figi... Vabbè ragazzi, ma di che stiamo parlando? Su Marco, la ringrazio, resti lì però perché lei è molto simpatico. 800 24 00 24, è con noi un grande personaggio. Non lo grande personaggio. Studio, no, non è in studio, in studio c'è il signor Iansante. Signor Iansante. Vabbè, però se la dici così, cioè divento divento il buffone della serata. Però adesso si taccia un attimo, signor Iansante. È con noi Mauro Masi, buonasera. Ciao, buonasera. Ah, come sta? Ciao. Come sta, dottor Masi? Sto sotto la neve. Sotto a la Roma, neve, quindi a Roma. Ma era Roma. Anche un po' febbricitante, mi sembra, o no? Vagamente febbricitante. E vabbè, ma succede, per curare la febbre in questo caso, domani sera può guardare servizio pubblico, se me, come col signor Santoro. Ma io non me lo perdo mai. Ah, non se lo perde mai, se lo vede sempre? Non è vero. È vero. Non telefona a servizio pubblico. Dica la verità. Lei vede servizio pubblico? Ma non c'è niente di male. Non è un reato. A volte sì, a volte no, insomma, come capita. A volte sembra noi lo cambio. Cioè, c'è un grande strumento di democrazia che è il telecomando, l'hanno detto tutti. E certo. Sì. Senta, ma senza Berlusconi è un po' moscio Santoro oppure ancora funziona, secondo lei? No, secondo me funziona ancora. Funziona ancora, Secondo me. Ma certo, sai, questo non è solo Santoro, ma in generale tutti quelli che fanno una televisione o comunque una comunicazione contro, hanno bisogno del nemico. Sì. Ne troveranno un altro, però la professionalità ci sta comunque, questo non... Certo, sai, se non c'hai il nemico, il grande nemico, sì, ma il grande è anche l'avversario, no? Come diceva Winston Churchill, no? Sì. Però, se tu però la prendi con un grande nemico, se uno te la prende con un grande come Berlusconi, finisce in qualche modo per subire questa sua grandezza, tra virgolette. Per cui sono due grandi. Se la prendi con Mauro Masi, la gente poi dice chi se ne frega, insomma. Però sono due grandi, no? Berlusconi e Santoro a modo loro sono due grandi. Beh, certo, sai, molto a modo loro e molto, molto su piani diversi. Ma cos'è che lei ha già detto in questo libro che uscirà a marzo, ha scritto per la Marsilio, per la Marsilio. Dillo meglio allora, no, lo dico, allora a marzo uscirà edito da Marsilio, un libro fatto con Mauro Masi insieme a Carlo Vulpio con la prefazione di Vittorio Sgarbi che si chiama 800 giorni in Rai, un nemico in Rai, un nemico alla Rai, 800 giorni Rai, contro nella televisione pubblica. Benissimo, sì. Allora si parla in questo libro dell'errore, aspetti un attimo Masi, si parla dell'errore commesso con quella telefonata, cioè lei ammette oggi di aver commesso un errore a chiamare Santoro? C'è un errore tecnico che fa parte proprio delle tavole della televisione, cioè chi sta in diretta vince sempre rispetto a chi è in collegata, la voce remota, lontana, il collegamento rispetto a chi mette la sua facciona davanti al video vince sempre comunque chi sta in diretta. Però ci fu anche un errore, cioè un direttore generale Rai sai, ogni cosa va contestualizzata, va vista nel momento in cui l'ha fatta, quello era un momento di comunicazione terribile in Italia in cui comunque non la farebbe più quella telefonata. No, non rifarei più la telefonata che ti ho detto, però se fossi convinto di dover intervenire sarei andato direttamente in trasmissione, era meglio, sarebbe stato meglio fosse mi intreccio col congiuntivo se fossi andato direttamente lì. Tecnicamente ma ci ha provato ad andare lì, cioè ha chiamato no. Beh, sarebbe stata una follia, no? Chiamare Santoro, sono il direttore generale, vengo alla trasmissione. Perché andare lì a fare un dibattito? Ma io non dico Santoro con chiunque, perché se uno è convinto delle proprie idee, perché no? La Rai è... Ma perché lei era un dirigente di quell'azienda, no? Ero il primo dirigente. Sergeant. Appunto, quindi era un po', sarebbe stato un po' ridicolo presentarsi nello studio di Sole Signor Masi. È un'azienda che fa appunto, deve fare servizio pubblico, al di là dei nomi, poi deve fare servizio pubblico in senso formale. E servizio pubblico significa anche una pluralità di trasmissioni e anche una certa indipendenza di chi lo fa. Per cui se uno è un portatore di idee diverse, comunque lo deve rispettare. Poi sai, l'abbiamo detto 100 volte, le trasmissioni di Santoro c'è una garanzia giuridica, nel senso che avendo avuto le sentenze che doveva stare comunque in video, con Santoro. Senta Massimo, ma per la RAI è stata una perdita grave quella di Santoro? Poi abbiamo 30 secondi di pubblicità, me lo dica in una battuta. Una perdita di Santoro? Santoro, da questo punto di vista non direi, perché sai, è uscito Santoro, sono arrivati altri grandi professionisti, io penso che un'azienda con la RAI. Beh, ancora le nessuno a RAI 2, chi è arrivato? A RAI 2 non è arrivato nessuno. Chi è arrivato? Beh, però insomma le persone passano, la RAI resta. La RAI resta. Siamo qui con Mauro Masi, che a marzo pubblica per Marsilio Un nemico alla RAI, 800 giorni contro nella televisione pubblica. Sembra che sia stata Masi una sorta di Cayenne, insomma una bella battaglia, sai, una bella battaglia. Come la cosa, una Cayenne è stata, un supplizio, un supplizio. No, la tortura. Questo no. Una battaglia quotidiana. Anche con aspetti positivi, perché comunque poi dipende da che tipo di persona sei. Io sono un combattente, per di più un laziale. Come me. L'ho detto apposta perché lo so. E quindi da buon combattente, alla fine della giornata, una bella battaglia comunque ti dà una partita. Quindi le piace certo, il potere che dà, e la sensazione del potere che dà essere direttore generale della RAI non è paragonabile a nessun'altra cosa. Mi dica la verità. Questo no, perché io sono una persona un po' sbagliata per dire questo, perché io vengo da esperienze prima della RAI, anche attuali, in cui comunque il potere, tra virgolette, lo conoscevo e l'ho conosciuto, soltanto è il potere meno esposto di quello appunto, che è la RAI. Il direttore generale della RAI ha nel nostro paese al tempo stesso un potere importante, non così grande come si pensi, e un'esposizione mediatica molto forte. Ecco, però questa cosa è una cosa che le piaceva, è innegabile. Pro e contro. Beh, più pro che contro. Però. Senta, ma lei ha mai detto un no a Berlusconi sulla RAI? Per esempio? Cosa? Beh, insomma, non a singola persona Berlusconi, ma a tanti altri. Per esempio? Ma su cosa ha detto no? Una miriade di telefonate. Poi le deve, come dire, deve conciliare con quello che sono i programmi, i palinsesti. Ma le fanno tutti le telefonate, i politici, le fanno tutti, diciamo la verità. Direttamente o indirettamente. O direttamente, anche la Lega, per esempio, che fa quella a voglia, la Lega. Beh, Bossi telefona spesso, insomma, sì. La Lega. A me personalmente io non ricordo telefonate della Lega, direi una stupidaggine dirlo questo, però insomma, sai, la Lega, sai, ha un rapporto importante con da sempre, storico, insomma. Non lo inventiamo noi. Anche Bossi, come sa, telefona spesso ultimamente, il signor Bossi. Fa telefonate in giro. Fa telefonate in giro a politici. Non l'ho mai sentito. No, ma com'è che funziona? Cioè, ad esempio, però è interessante questa cosa. Sì. Mi dica un no che ha detto a Berlusconi alla RAI. A Berlusconi, no, diciamo. Come no? Su una cosa. Guarda, le pareti dell'ufficio devono rimanere bianche. E lui diceva, no, devi fare le azzurre. Dire la singola cosa, non detta così, significa anche una stupidaggine, nemmeno me lo ricordo. Con tutta Beh, come non se lo ricordo. Però ti dico, io con Berlusconi sono stato suo segretario generale della presidenza del Consiglio. Sì, peraltro sì. Sono stato anche capo di gabinetto di D'Alema, lo dico per i nostri ascoltatori, perché non pensassero che fanno a che fare col berlusconiano appena ricevuto. E ti devo dire che con lui, la caratteristica di Berlusconi è che dice in pubblico, scusami, dice in privato quello che dice in pubblico. Se lui una cosa non piace, la dice... come la dice in ecco, che cos'è che le ha detto esplicitamente? Che lo conosco io, è la persona meno nascosta che esiste, nel senso che se dice una cosa prima o poi la dice in privato, poi la dice in pubblico e dice lei. Ecco, mi dica una cosa che voleva fare e lei ha detto, guardi Presidente, questa cosa qua proprio non si può fare. No, adesso questo non me lo ricordo. Nella segretezza del funzionario pubblico. Senta, perché Minzolini gli ha dato del pusillanime? Perché sarebbe ingiusto, significa soltanto verso Berlusconi. Ti dico che di queste telefonate, direttamente o indirettamente, ne sono arrivate tante. Sai, te ne faccio una delle più banali, nei confronti dei telegiornali. Poi detto questo, il direttore generale non è che abbia tutto questo potere immediato nei confronti dei telegiornali. Certo. Perché uno dice, sono venuto male, volevo 20 secondi, hai 10 secondi dedicati più, 5 secondi più di quello. Passava la giornata al telefono lei praticamente. Beh, in un'intercettazione però lei dice che per Berlusconi ha messo a posto i telegiornali. Ma sai, al telefono si dicono un sacco di sciocchezze. Al telefono si dicono, quella fu una sciocchezza, lei non mise a posto i telegiornali. Io ho proposto dei telegiornali più equilibrati, che quando sono arrivato io, ma questo non è un mistero per nessuno. nessuno e sarebbe ipocrita anche stolto negarlo. E infatti c'era un tipo di comunicazione molto spostata sul centro-sinistra. Io ho cercato di riequilibrare e dunque il senso di quella frase era quello di fare applicare a tutti le stesse regole. È chiaro che se essendo una cosa molto spostata a sinistra si lamenta più a sinistra, ma si sono lamentati molto anche a destra, ti dico. Io per esempio ho nominato il mio capo della RAI, il mio capo del personale della RAI era un uomo, adesso una persona del tutto sconosciuta al grande pubblico, ma ben nota in azienda, perché il capo del personale di 13.000 come persone, no? Certo, è qualcuno certo. era considerato tradizionalmente un uomo di centro-sinistra, io l'ho mantenuto e non tutti erano contenti. Di questa cosa qua. Ma senta, questo non frega niente a nessuno, però se io spostavo un vice direttore al, che ti posso dire, alla redazione del GR locale, del GR o alla TGR, la cosa faceva molto più scalpore. C'erano 50 articoli. Senta Masi, però le Minzolini, che è stato un po' una croce e delizia nello stesso tempo del suo mandato, la definisce un pusillanime. Addirittura. Un pusillanime, perché io su questa cosa ti invito a leggere quello che dico sul libro, non lo anticipo tutto. No, mi dica una cosa però su questa cosa qua, su Minzolini, come risponde? Guarda, dico questo, probabilmente, secondo me, ti dico con molta chiarezza, probabilmente Minzo quella cosa l'ha detta in un momento di nervosismo, gli sarà un po' scappata, perché mi pare nel momento in cui era stato rinviato a giudizio e mi auguro che poi venne da noi, venne da noi Minzolini, Masi, scusi un attimo. Questo secondo me i casi sono due, o non conosce me, ed è probabile, o non sa bene che significa la parola pusillanime, perché chi mi conosce definirmi pusillanime mi può definire in tanti modi, ma definirmi pusillanime francamente. Si è sentito offeso da quella frase di Minzolini? Offeso? Sì. Abbastanza, sì. Sì. E medita qualcosa di no assolutamente. Senta, però Minzolini venne da noi qualche giorno dopo qui alla Zanzara con un'intervista che fece molto scalpore e disse sostanzialmente sono miserie umane queste qua, cioè Masi sostanzialmente non aveva un accordo con me che poi a un certo punto ritrattò sull'utilizzo della carta di credito. Guarda, su questo poi il dettaglio è un po' così, perché io di queste cose ne ho parlato, c'è addirittura un processo. Sì, certo. Ho spiegato con chiarezza io e la posizione dell'azienda, che è stata molto chiara, e da questo i magistrati poi hanno preso le loro determinazioni, tant'è che l'azienda da questa è stata chiamata completamente fuori. Per cui non c'è niente che devo giustificare, l'ha già definito la magistratura. Io credo veramente che ci sia e sono, voglio riconoscere ad Augusto, come dire, l'errore in buona fede. Non ho difficoltà a riconoscerlo. Posso anche capire che uno, tra virgolette, fatemi usare un termine inglese, si incazzi per una vicenda di questo tipo, lo capisco. Cioè, però con la carta di credito ha commesso un errore in buona fede. Io lo considero un errore in buona fede, tant'è che poi lui ha restituito su nostra richiesta. Ma è vero che ha avuto delle, cioè, questo però mi deve dire la verità su questo, perché io dico sempre la verità. È vero che no, la verità nel senso quello che si può dire. È vero che lui all'inizio non voleva restituirgli quei soldi, perché anche lui un po' tirato, mi dica la verità. Ha voluto semplicemente capire di che cosa si trattasse, quando ha capito le ha restituito. Ma è vero che è un po' tirato quei soldi? Attento. Livello di conoscenza oculato. Non ci sono stati problemi di questo tipo. Ha voluto capire, quando noi gli abbiamo spiegato, guarda che queste cose, a differenza di quello che tu pensi, o sono giustificate per motivi d'ufficio. Errori in buona fede, comunque errori in buona fede. Può succedere anche questo, purtroppo, nella vita. Succederà di dover assistere, quando ci sarà il Carnevale di Rio, a una sfilata, alla sfilata di un terrorista, alla sfilata di un assassino, il quale ha detto, almeno da quello che si sa dal Brasile, di voler partecipare di persona alla sfilata dei carri a Rio per il Carnevale. Sto parlando naturalmente del signor Cesare Battisti. Signor Cesare Battisti, che è un uomo libero e naturalmente in Brasile può fare quello che vuole. Perché fai l'indignato? No, io faccio l'indignato perché è una notizia che mi fa schifo. A chi si può fare? Non si può fare nulla, perché in Brasile lo consiglia. Indigni per il fatto che il signor Battisti farà questa sfilata assieme a altre milioni di persone. Purtroppo è libero, non è che può star lì. Non c'è dubbio. C'è un altro elemento. Io sono convinto purtroppo che un paese che si chiami tale, che si possa definire tale, farebbe un'operazione come quella che Israele fece tanti anni fa. Ecco il meraviglioso ponte aereo. Con violazioni. Prendere e portare. Poi il Brasile fa casino per la violazione del diritto internazionale. Chi se ne frega. Avanti tutta. Bene, questa è la Zanzara, 800 24 00 24, alle 20:15, grande iniziativa in concomitanza col Festival di Sanremo. Lei è un genio, posso dirlo? Ma non dire stupidaggini, no. Lanceremo una nuova iniziativa che è nuova grande iniziativa. Politicanti. E beh, poi spiegheremo tutto. Intanto è con noi Mauro Masi, direttore generale, ex direttore generale della RAI. Ma cosa fa ora il signor Masi? Beh, è a capo di una... Lo dico? Come no? Beh, certo. Sono amministratore delegato della Consap. Consap, che è un'azienda pubblica che si occupa di assicurazioni pubbliche, di grandi assicurazioni pubbliche. Sì, quindi sempre in un'azienda pubblica, insomma. Sì. Ma poi io sono funzionario, sono dirigente generale della Presidenza del Consiglio distaccato. E chi l'ammazza lei, direttore? Sta in buca di tre, amico mio. Sì, sta in buca di tre. Sono conquistate lavorando da bambino. Sì, no, sì. Perché sta in buca. Ho fatto una robetta come 18 anni di Banca d'Italia. No, ma non c'è dubbio. Fondo Monetario Internazionale. Robette così. Si è fatto uno spread così, possiamo dirlo? Ho fatto uno spread. uno spread di grandi però dimensioni. Posso dire, Masi, due punti, sto in buca di tre, chi m'ammazza? No, perché che c'entra? Quello. Dai. Devo dire che in Italia le persone che sono state dirigenti, poi anche quando sono, come dire, lasciano un'azienda, poi spesso se sono ancora in attività lavorativa è normale, Parenzo, perché stai criticando questa cosa? Non sto criticando, ho detto che fai sempre ironie su questa cosa. Ma no, ma lei vuole bene a Minzolini, Masi? Beh, bene adesso. Voglio bene a Minzolini? Sì. Ma io, guarda, il bene è un termine che userei con molta cautela. Con molta cautela, molta cautela. Con molta cautela. Molta cautela. Per cui non, che prova verso Minzolini? Ma Augusto, io devo dirti che quando l'ho proposto, perché l'ho proposto io, io sai, dai giornali ho proposto Minzolini all'1, sì. Orfeo al 2 e la Berlinguer al 3. E chi Maccari, la proposta? Chi... Dico Maccari, che ora ha preso il posto di Minzolini ai regionali. Ecco, ma chi è meglio, Maccari o Minzolini? Chi fa il telegiornale? Ma sono due molto diversi. Guarda, per me Maccari è un giornalista più tradizionale, un nuovo macchina ed è un grandissimo professionista. Sì. Era più adatto, era più adatto al TG1? Guarda, Augusto, adesso molto oggettivamente può piacere o non piacere il telegiornale che lo faceva, ma era comunque un telegiornale diverso, era a suo modo. Ah, questo è sicuro. Poi sai, come sempre gli innovatori a volte lasciano molti morti sul terreno. Però possiamo dire che non era adatto a dirigere adesso a bocce ferme. No, io questo non lo dico, sinceramente non si lo può dico dire, perché non lo penso. Ma chi glielo propose il nome di mi dica la verità, Masi? Questa è una proposta che fece direttamente a Berlusconi. Questo è un discorso molto più ampio. Qualcuno fece il nome di Minzolini. Ho confrontato con il mio consiglio d'amministrazione, in cui ci stava una componente di maggioranza centrodestra, una componente di minoranza. Ho sentito un po' tutti, erano emersi una serie di nomi e io poi ho portato in consiglio d'amministrazione quel nome, in questo caso, ma era, ti ripeto, era poi venne fuori una accoppiata con Orfeo e poi successivamente la Berlinguer. Quei nomi che potevano avere una maggioranza, perché portare in consiglio d'amministrazione, questo è un direttore generale che porta in consiglio d'amministrazione un nome che poi viene bocciato, fa male al direttore generale e fa male al professionista. Quindi tra i nomi che erano emersi, tra l'altro poi convinceva me, perché a me sinceramente l'idea di andare alla sfida con un giovane come era Augusto, che peraltro ha inventato uno stile nel giornalismo della carta stampata. Senta Masi, ma dunque lei rifarebbe la stessa scelta oggi? Probabilmente sì, anche se forse col senno di poi in quel nel momento avrei usato alcune cautele maggiori, avremmo usato insieme alcune cautele maggiori, non gli avrebbe dato la carta credito. La scelta di mettere un giornalista giovane di rottura a fare l'ammiraglia del servizio pubblico, io l'ho fatta, anche perché insomma tutto mi sembra. Beh, gli ascolti dire, però sono stati negativi, gli ascolti sono quello che mi manca il coraggio, io sono sbagliando, perché poi in termini di ascolti è andata male, ho portato Sgarbi in prima serata su Rai 1, voglio dire, ci vuole il coraggio per farlo. Non c'è dubbio, non c'è questo, dubbio. Però ti devo dire una cosa su questa cosa di Sgarbi in prima serata su Rai 1, che tutti hanno criticato. Io ti dico una cosa, Sgarbi è, con tutti gli errori che ha fatto quella trasmissione, uno che ha portato in prima serata Dylan Thomas, che adesso non tutti sapranno chi è, ma tanti voi lo sapete, ma non tutti alla radio l'ascoltano. Ecco, no, appunto, probabilmente uno dei maggiori poeti in lingua inglese del Novecento. Non c'è bisogno di portarlo in prima serata a Rai 1, però. Però sai, tutti si sciacquano la bocca che il servizio pubblico deve fare cultura, deve fare cultura. E poi il momento in cui tenti davvero di fare cultura e gli ascolti non ci sono, ti sparano tutti quanti. Senta, ma secondo lei Minzolini potrebbe tornare a dirigere il TG1? Allora, lui ha fatto un ricorso e da quello che ho letto sui giornali non ho conoscenza diretta, che deve essere discusso a breve. Sai, bisogna vedere come, e io non conosco il provvedimento, come è stato motivato il provvedimento di avvicendamento. Però la rimozione è stata corretta secondo lei di Minzolini oppure no? Ma guarda, quella è una scelta che ha fatto l'azienda, non è carino né elegante. Un po' come Santoro, no? Anche Santoro è stato reintegrato con un intervento del giudice, quindi Minzolini come Santoro possiamo dire. Non solo, ma anche gestione di Santoro è stato reintegrato in periodi lontani nel 2005, io non c'ero. Durante la mia gestione è stato reintegrato Paolo Ruffini, il direttore di Rai 3, che era stato sostituito con un voto peraltro unanime del Consiglio d'amministrazione, questa è una cosa che non viene detta. Il Consiglio d'amministrazione della Rai, quando fu sostituito, quando Ruffini fu sostituito con Di Bella, che poi è ritornato, il voto fu 8-1, nel senso uno si è astenuto e 8 a favore, quindi praticamente all'unanimità. Senta, dobbiamo chiudere. Senta, Masi, le voglio chiedere una cosa, ma lei farebbe politica? Si candiderebbe? Sì. Guarda, io ho avuto molte occasioni durante la vita e non ci ho mai pensato. E adesso? Dico mai dire mai. Gliel'hanno chiesto? Le cose come stanno. Gliel'hanno chiesto? Insomma, qualche... Non lo so, ci sto pensando, sinceramente. Beh, questo è interessante. In che schiaramento, diciamo? Con l'Italia dei Valori? Con Berlusconi? Non lo so, io penso che dopo l'esperienza Monti tutto sarà cambiato al nostro paese. Quando si andrà a votare bisogna vedere come sarà. Io sono un liberale, mi confronterò, se mai dovesse succedere, mi confronterò con chi ha idee che sono vicine a quello che io penso. Io sono un liberale, anzi più un liberal per dirlo all'americano. Sì, però più vicino al centrodestra che al centrosinistra, diciamo la verità. Adesso. Guarda, io ho avuto esperienze di lavoro professionali importanti sia un senso o nell'altro, ti ripeto, no, davvero io non voglio fare reticente su questo, dico le cose come stanno, non ho paura, soprattutto a meno che ho paura, ti dico davvero, io sono un liberale. Vediamo come sarà anche col PD. Guarda, io l'impressione che ho personale è che, ti ripeto, questa esperienza del governo tecnico cambierà tutto. L'altro governo tecnico, quello di Dini nel 96, io ero portavoce del governo, ero insomma capo della segreteria politica di Dini, molto immodestamente una sorta di suo braccio destro, quindi l'ho vissuta direttamente. I governi tecnici sono un'anomalia nel nostro sistema e cambiano molto la politica. Questo credo che lo cambierà moltissimo, vedremo che cosa succederà quando ci saranno comunque elezioni. Non escludo di candidarmi, di entrare in Parlamento. Come di fare... diceva uno dei più grandi pensatori del Novecento, James Bond, mai dire mai. No, ma non è solo mai dire mai, non è solo quello. Lei ci sto pensando. Un po' ci sta pensando, diciamo la verità. Sì, però c'è un problema fondamentale, per fare queste cose bisogna essere almeno in due, no? È come sposarsi. Vabbè, quello... Qualcuno non mi ha chiesto niente. Ma qualcuno... no, però lei prima ha detto che qualcuno gliel'aveva un po' quasi fatto... negli anni gliel'avranno chiesto. Qualche volta è successo, sì. E devo dirti, te lo dico con molta franchezza, sia di destra che di sinistra. Anche a sinistra, anche del PD. Sì, ma Monti ha una, come dire, il governo Monti fa le cose che Berlusconi non ha saputo e potuto fare? A lei piace il governo Monti? Ma io credo che in questo momento è quello, insomma, l'Italia ha avuto bisogno in questo momento del governo Monti, di un governo di questo tipo. Cioè con Berlusconi non si poteva più andare avanti, diciamo la verità. No, io questo non mi vuoi far dire una cosa che non dico e non penso. Anzi, in generale, se devo dirti, per la democrazia parlamentare italiana i governi eletti sono la regola e devono essere la regola. Però c'è stata una condizione assolutamente straordinaria in cui poi, sai, questi tecnici sono stati chiamati, non è? Quello stavano a casa loro, non è che si sono presentati a Palazzo Chigi. Però a lei da tecnico i tecnici piacciono, diciamo la verità, questi tecnici piacciono. Da tecnico dico che è un bel governo tecnico. Io vengo da quel mondo lì, per cui non... Io dico che il tecnico è chiamato per fare una funzione e un dovere. Sì. La fanno al meglio di cui sono capaci, poi se non va bene forse parlamentari li mandano a casa. Grazie a Mauro Masi. A voi. Grazie. Sicuri, Pubblicità, sicuri. Prima della pubblicità però... Com'è erotica la zanzara? Ancora erotica? Sì, Cristian, sì. Ancora erotica la voglio, poi te ne faccio fare una. Sempre uguale. Sì, sempre uguale. Vabbè. Vai. Però un'erotica un po' moscia, un po'... Sì, un po' moscia, sì, perché... La zanzara... Siamo qui 20:13, 800 24 00 24, la zanzara, andiamo a Napoli. Bene. Salvatore, buonasera. Napola. Buonasera. Vada. Intanto grazie. Monti, allora... direttiva di Monti, taglia Palazzo Chigi e Ministeri, stoppa i convegni inutili e restituite i regali. Andranno rispediti al mittente o ceduti all'amministrazione doni per un valore superiore a 150 euro. Applausi, 150 questa è una buona euro. Notizia. Applausi. Vada, ottimo. Applausi, innanzitutto la zanzara non è così sexy come quello che state dicendo. No. La voce che sta facendo adesso non è così sexy, glielo può dire. No. Un'altra cosa. Cioè, facciamo schifo, scusi. No, lei, la voce che sta facendo adesso il signore che sta... Ah, non è così sexy. Beh, è cruciale, è sempre così male disposto verso chi la chiama. Non no, perché? Come. Assolutamente. Io invece l'ammiro molto perché lei è così cinico, così pragmatico. Ma Salvatore, io non sono mal disposto, sto cercando di capire quello che sta dicendo lei. Ma risponde subito male, facciamo schifo, non ho usato questo termine. Seconda ma cosa, no, ma era per scherzare, sicuri se ci crede. Mi ha fatto, veramente, mi ha colpito la compassione dell'onorevole Giachetti per le figlie del senatore Lusi. Vera, e sono rimasto male perché lei non gli ha fatto una pernacchia, glielo dico in maniera molto scusi, concreta. Ma se lui è rimasto colpito dalle figlie, dalla ricaduta che può avere questa vicenda sulle figlie del senatore Musi, ma che cosa vuole che dica Giachetti? Lui è rimasto colpito da questo, lo devo aggredire? Lei dovrebbe dire le stesse cose che usa dire quando qualcuno si presenta in mezzo alla strada per fare come usava lei quei termini, cioè che va in mezzo alla strada inutilmente per dimostrare contro Berlusconi prima o Monti dopo. Lei usava le stesse cose, diceva che erano stronzate, lei poteva usare lo stesso termine. Perché? Ma se non lo penso, scusi, ma se non lo penso. Allora non è coerente. Scusi, ma abbia pazienza, sono due cose diverse, una è una manifestazione politica. Allora mi permetto di dire che lei non è coerente, poi lei la pensa come voi. Avrei dovuto dire a Giachetti, lei sbaglia ad emozionarsi e avere un pensiero sulle figlie di Musi. Lei non doveva dire sbaglia, gli doveva fare una pernacchia, che è differente. Perché uno che si permette di dire a compassione delle figlie di uno che ha rubato esattamente 13 milioni di euro. Però alle figlie è la stessa persona che però alle figlie con quei soldi ha fatto fare un tenore di vita che probabilmente un impiegato o un disoccupato napoletano, nel caso mio specifico, non può far però, fare. Scusi, Salvatore, questo qua. Non fa niente. No, ma Salvatore, scusi un attimo, questo qua è il suo, è un ragionamento che ci può anche stare. Io però non posso aggredire lei, perché lei è incazzato per quello che ha sentito sul senatore Lusi, non gliene frega niente delle figlie di Lusi, perché dice lei hanno goduto di un tenore di vita, che poi è tutto da dimostrare, superiore a quello che Lusi si poteva permettere grazie ai soldi del finanziamento pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Però le faccio notare che io non posso dire a Giachetti, no, lei sbaglia ad avere nel proprio cuore un pensiero nei confronti delle figlie di Lusi. Quello è un pensiero che lui ha avuto nei confronti delle figlie di Lusi. Mi fa impressione, dice, avendo anche lui due figlie, immaginare come si possano sentire le figlie di uno che viene dipinto e poi magari è anche dimostrato come un ladro e viene messo al pubblico ludibrio come un grande criminale. Ma insomma, questo qua è un sentimento che ci può stare. Però lei è la stessa persona che quando un esponente di tutte le zone d'Italia fanno manifestazioni contro qualcuno, cosa c'entra? Perché il paragone? No, perché dice mostra. Lei esprime ma questa non è. Scusi, ma questa non è quella di Giachetti. Certo, non era una stronzata. Adesso Parenzo le dà una mano, perché quando ve la difficoltà, Parenzo la mette sul comico. Ma adesso non è che tu. Mi dica. Io tra l'altro dovevo ringraziare voi due per il fatto semplice che avete fatto tantissimo più danno voi con la telefonata a Cosentino di quello che non sono riuscito a fare né i parlamentari né l'opposizione né nessuno. E di questo la ringrazio, devo dare il traffico e torniamo subito. Filippo da Monza, buonasera. Pronto? Vada. Sì, buonasera. No, io mi scuso un attimino perché ho perso un'oretta della vostra trasmissione, il tempo che è intercorso dal momento in cui ho chiamato al momento in cui mi hanno richiamato. Non è un crimine, ancora non è un crimine. Male. Meno male. No, volevo solo perché si parlava prima di questi 13 milioni di euro che sarebbero spariti e nessuno se n'è accorto, no? Mi sorge, la domanda può sembrare abbastanza banale, ma voglio dire, nella sua banalità, mi sembra alquanto improbabile che non stiamo parlando di un euro, due euro, cioè io quando non pago il bollo, la mia regione Lombardia per 150 euro mette in piedi un sistema e si accorge di tra i milioni di contribuenti che io non sto pagando quei 150 euro. Non capisco come mai adesso. Perché non c'è controllo su questi soldi? Non c'è controllo su questi soldi, Filippo, non c'è nessun controllo. Ho capito, ma poi probabilmente è convenuto. Cioè, caricare tutte le colpe ad una persona. Guardi, sulle difensive, se politici, i politici la devono finire di prenderci in giro. Però scusi un attimo, noi le prove che altri sapessero e hanno approfittato di questa situazione ancora non le abbiamo. Noi sappiamo, almeno da quello che è uscito fuori fino adesso, che questo signore amministrava come una sorta di satrapo le finanze della Margherita, quello che rimaneva delle finanze della Margherita, che non era poco, in perfetta solitudine, è riuscito, perché non c'erano controlli, e questo è un problema politico grave e c'è una responsabilità politica gravissima su questo, è riuscito a dirottare questi soldi sui propri conti facendo varie operazioni, cosa assurda, vergognosa, tutto quello che vuole. Però di prove che altri sapessero e magari ne hanno approfittato, sì, o che comunque non ce ne sono per adesso, noi questo sappiamo, per cui quando Rutelli dice ci hanno fregato, più o meno li dobbiamo credere, no, fino a prova contraria. Basta dire... Poi c'è una responsabilità politica e quella è un'altra cosa. Questa, con tutti, voglio dire, come stiamo parlando di 13 milioni di euro. Ma, se, ma lei non si deve stupire di questo qua, ma se non c'è il controllo possono essere anche 60. Ma ci sono qualche dubbio mi rimane. Poi ma vengono a tutti i dubbi di dovere a dire quello guardi, che come sono andati lo fare. Sa un altro dubbio che ho io è se uno proprio deve fare un'operazione nascosta per fregare eccetera, secondo lei si fa 90 bonifici non so che cosa su un proprio conto, cioè è un modo di rubare i soldi, di sottrarre i soldi piuttosto bizzarro, cioè no, è evidente che prima o poi qualcuno se ne sarebbe accorto, no? Per cui o è un pazzo suicida oppure c'è qualcos'altro, ma ripeto, fino adesso sappiamo solo questo. La ringrazio, inizia questa sera una grande beh, gara. Oh mamma mia, arginare il mare, il bellisario che si è offerto volontario, ecco la nostalgia del me Milan. Politicanti, le ugole di palazzo. Eccoci qui, seconda edizione, seconda straordinaria edizione, speriamo straordinaria, ce lo diciamo da soli, delle ugole del palazzo. Lei è geniale, glielo ho già detto. Politicanti, smetti di dire queste stupidaggini. Io non vuole i complimenti, signor Cruciani. No, perché lei lisce il pelo a chiunque. Ma dipende, signor Cruciani. Davanti, dipende. Voi non potete vedere, davanti a Parenzo c'è la foto, la foto della signora Marcegaglia, la foto del signor Bernabé, la foto del signor Bernabé, sì, e anche la foto in parte, sì, lavorando con Chiambretti, del signor Pier Silvio Berlusconi. Sì, poi di Gonfalonieri. Sì, quante ne hai di queste foto? Voglio proprio attrezzare un banchetto con tutte le foto. Allora, cresce intanto il numero di partecipanti all'Ugolo del Palazzo, a sì, Politicanti. Hanno aderito in tantissimi a questa grande iniziativa editoriale, voluta fortemente anche dal Sole 24 Ore, dal quotidiano. Dai, no, veramente non abbiamo notizia di questo. Comunque, stiamo rovinando un autorevolissimo giornale. Un'iniziativa nostra. Sì. Ci sarà un allegato anche, no? Che verrà dato col giornale. Ma questo ancora non risulta. Le grandi iniziative. Però salutiamo il direttore, peraltro. Sì, sempre. Sì. Sempre. Il primo ospite, graditissimo questa sera, sì, a esibirsi, e devo dire che insomma ha anche un certo coraggio. Sì. Non perché canti male, ma perché comunque bisogna metterci la faccia. In alcuni casi ed è giusto metterci la faccia, bello, e anche bello. Dare un'idea della politica che non è quella rinchiusa, sì, come nel dire, palazzo, nella torre, nel palazzo. A fare le feste, il bunga bunga. No, questo che c'entra? Ormai non siamo nell'epoca del bunga bunga, eccetera. Vabbè, lasciamo perdere le considerazioni di Parenzo. La prima persona che si presenta qui ai nostri microfoni è l'onorevole Paola Frassinetti, PDL, grande tifosa del Milan, peraltro. Buonasera. Esatto, infatti tra un po' vado a vedere la partita. Ma è un'amica la Frassinetti, la conosco da tipo 30 anni. Come da no, 30 anni? Come non possibile? È possibile, nel 36. 36. Vabbè, Parenzo, è sempre stato così, onorevole Frassinetti. L'avvocato Frassinetti, però, perché è avvocato. Esatto. Frassinetti. È sempre esatto, stato così, Parenzo, un po' viscido. Un no, po'... ma che ti viscido? Come ti permetti? Eh? No, ma fra poco va a San Siro? No, sono a Roma, guarda la televisione. Tu devi sapere che io l'onorevole Frassinetti una volta l'ho conosciuta a San Siro. Sì. L'ho conosciuta a San Siro durante Milan-Napoli. Ma no, beh, chi se ne frega non si può mettere. Sì, poi anche aggiungerlo, ma durante Milan-Napoli abbiamo anche pranzato insieme in quella sorta di bunker, di piccoli come bunker. Insieme avete pranzato. L'onorevole Frassinetti ed era scatenata. Sì. Io non ho mai visto una donna così scatenata. Come a fare il tifo in tribuna VIP, eccetera, scatenata. Sono stata in tribuna VIP solo quella sera perché io sono nel primo blu. In tribuna VIP. Hai capito? Bisogna ricordare che la signora Frassinetti è dell'area di Alemanno, cioè appartiene alla destra sociale. Dice. Esatto. Ti assicuro. Ancora? Qualcosa so anch'io. Ancora esiste la destra sociale? Siccome no. Vabbè. Lei è proprio della destra passiamo sociale. Passiamo alle cose è serie. È vero o no, Frassinetti? La canzone che canterà questa sera, la prima canzone di Faccetta Nera, no, è questa. No. Devo far partire, la vuole con la base o senza la base? Ma fate voi, per me è uguale. Allora partiamo con la base. Partiamo con la base. Molto simpatico. Non verrai. L'orologio nella piazza ormai corre troppo per noi, so dove sei. sei, tu non stai correndo qui da me, sei rimasta con lui, le luci bianche nella notte sembrano accese per me, è tutta mia la città, tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà. Questa notte un uomo piangerà. Beh, devo dire, il mio personale poi deciderà chi deciderà, la grande giuria ideata, presieduta da Iva Zanicchi, con la partecipazione, domani farò un annuncio importante con la partecipazione anche di un cantante italiano molto conosciuto. Ma questa trasmissione è pazzesca. Devo dire, io do il mio 6, il mio 6, il mio 6. Posso dire che questa notte un uomo piangerà, magari l'allenatore della Juve. Ecco. Vabbè, questo pensavo adesso, fosse Prassinetti, adesso questo lei si sta allargando un po'. Pensavo fosse dedicata ad Alemanno, tutta mia la città questa notte. Vabbè, allora io sono milanese, la dedico ai milanesi che vogliono riprendersi la città togliendo la Pisapia. Ma che riprendersi la città, che riprendersi la città. Onorevole Frassinetti, però mi devi rifare le prime strofe, solo le prime strofe, vada. No, non verrai, l'orologio nella piazza ormai corre troppo per noi. So dove sei, tu non stai correndo qui da me, sei rimasta con lui. Era Paola Frassinetti, TDL, tutta mia la città, naturalmente Kip 84. Tu che sei spietato, Ian Sante, tu sei spietato. Io sono troppo buono perché io un 7 do per... Io do il mio personale 6, gli darei 4, però do 6 per la partecipazione, perché è la prima. Ian Sante, tu che devi essere spietato, dai. Perché non ho sentito gli altri, capito? No, non il primo, tu ci dici il primo. A botta calda. A botta calda. Io gli metto un 3. Vai, vabbè, ma te sei tremendo. Grazie, grazie, onorevole Frassinetti. Io sono il Morgan della situazione. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie, andiamo a Roberta da Ancona. Ma c'è qui un altro grandissimo ospite. Che attende, si scalda. No, grandissimo ospite. Si scalda sulla faccia con cui laterale. Parleremo di tante altre cose. Sì. Canterà, poi parleremo di tante altre cose, perché è uno dei protagonisti della politica di questi mesi. Bisogna dire la verità. Si scalda in regia, intanto, l'onorevole. L'onorevole, poi lo diremo. Si scalda in regia. Lo dico adesso, prima della pubblicità. Come faceva Bruno Pezzul? Che ne so, Roberta D'Ancona, ma che ne sai tu di calcio? Bruno Pezzul. Roberta D'Ancona. Pronto? Vada. Io devo ritornare purtroppo al caso Lusi. No, lei deve tornare al caso Lusi. Ecco. Perché purtroppo? Deve tornare al caso Lusi. Nel buco. No, in particolare al fatto che sono rimasta esterrefatta letteralmente da quello che diceva Giachetti. A proposito di? Al proposito del fatto che nessuno poteva accorgersene. Cioè, questa è veramente l'espressione del dilettantismo, superficialità della classe politica attuale e anche di quelli che partecipano comunque comunemente anche alla vita politica. Io ne ho fatto parte per un periodo, non nel suo partito, ma di un altro. Sì, però è il risultato del fatto che le finanze, quando sono affidate ad una sola persona di cui tutti quanti più o meno si fidano e nessuno più o meno... Posso parlare, per favore? Sì, sì, Roberto. Allora, prima di arrivare alle responsabilità di Lusi, che naturalmente quelle sono tutte da giudicare, no? Qualcosa ha ammesso, diciamo, signor Lusi, qualcosa prima ha ammesso. Le persone dovevano avere... ma questo già dipende dallo statuto, come è fatto lo statuto del partito, perché un'assemblea in cui arrivano 12 persone su 400, il fatto che un'assemblea di 12 persone possa approvare un bilancio, il fatto che il bilancio non venga fatto vedere e su richiesta ci sono voci talmente vaghe che comunque possono nascondere qualsiasi cosa, cioè questo un qualsiasi piccolo ricreativo di qualsiasi paese starebbe attenti, molto più attenti a queste cose. Lui aveva l'aria di l'ultimo socio del circolo ricreativo di Canicattì. Ho capito. Lei dice qualsiasi circolo avrebbe controllato meglio i propri conti piuttosto Le assicuro che io ho fatto parte di una sezione provinciale di un partito, poi provinciale, ma E controllavate i conti molto meglio molto di quello basso. Che ha fatto, di quello che ha fatto la Margherita. Come? Controllavate i conti molto meglio di quello che ha fatto la Margherita. No, cioè nel senso che il dilettantismo era sempre lo stesso, però a un certo punto la gente, siccome i soldi sono pochi, a livello periferico non arriva assolutamente niente, si sta attenti un pochino meglio alla gestione dei soldi. Grazie Roberta, abbiamo la borsa e poi torniamo con Franco Barbato, grandissimo Italia dei Valori, tra poco ai nostri climax, microfoni. Un climax. Spot. capelli così mettiti comoda, comoda sull'erba. Eccoci qui, 20:35, 800 24 00 24. Bene, avete sentito dalla breaking news, certo, una notizia molto importante che riguarda lo sport. No, tu non ci capisci assolutamente signor nulla. Signor Capello che tornerà in Italia, va bene. Ma no, non è detto signor che torni, Capello. Non è detto che torni in Italia. Ma domani sarà sulla prima pagina di tutti i giornali. Lo candideranno. Per di cui questo una... forse parlano al bar, effettivamente. Di Capello, sì, dello scorporo della legge elettorale. Esatto. No. Italo da Trento. Poi andiamo. No, Italo da Trento. Italo Bocchino, che molto probabilmente sarà il nostro ospite. Forse domani, signor Bocchino, da noi. Italo da Trento, 800 24 00 24. Tra poco, sulla politica italiana, su quello che è successo negli ultimi mesi, sì, e soprattutto per sentire la sua voce. Sì, mi fai gode quando fai così. Suo canto, sì, la sua ugole. Sì. Francesco Barbano. Francesco, perché dico sempre Franco? Dell'Italia dei Livori. Un attimo solo, onorevole Barbano, perché dico sempre Franco? Sei tu che cerchi continuamente di storpiare il mio nome, perché il mio nome di battesimo è Francesco. Francesco, diciamo Francesco Barbano, perché ogni tanto però qualcuno si sbaglia. Qualcuno gli ha detto perché Franco. C'era un barbato, sì, c'era un barbato nella passata legislatura? No, piano, Franco. C'era un barbato, quello era lo sputacchino del Senato ed no, era un altro articolo. Che dici? Sì, quello che sputò, sì, quello che sputò. No, e non a caso io precisai, come io si sono chiamava, come si chiamava? Franco? No, lui è Tommaso. Ah, Tommaso, sì, Tommaso. Poi c'è Barbareschi anche. Ma che c'entra quello? No, dico Barbareschi. Il trasformista. Il trasformista. Vabbè, glielo ho detto ieri, no, è il suo film. Infatti, così lo chiamo. Ieri mi passò vicino e i trasformista, come ma lei rompe i coglioni a chiunque, no, cioè non le si può passare mai che abbia una parola gentile, una volta dice ciao, buongiorno, no, buongiorno signor Berlusconi, una volta, no, una, io sono anch'io un rompicoglioni, no, ma scusa, una volta, mi racconti io chiamo, cosa qua. Chiamo le cose con il loro vero nome, sì, punto, questo scusi, è Barbato. Una volta che lei è vero che guardò in faccia la boccetta, mentre sì. Amedeo, la boccetta. Che è successo? Mi racconti l'episodio con la boccetta? Beh, ma chi è? L'onorevole la boccetta, Amedeo, PDL. Ero seduto in Transatlantico con un giornalista del Fatto Quotidiano, lui mi passa vicino, a caso, certo, mi passa, mi guarda così con occhio torvo, continua a guardarmi, mi supera per guardarmi, gira la testa e mi fa: ma perché mi guardi? Dico: guardi onorevole, è lei che sta guardando me, tanto è vero che cammina con la testa girata indietro per guardarmi. E lui, di tutta risposta, da gentiluomo, fa: ma vaffanculo. Le conversazioni del transatlantico la amano tutti proprio lì al Parlamento. E un'altra persona con cui ha avuto un tipo di scontro del genere, chi è stato recentemente? Perché non la amano molto dopo la questione dei video famosi, no? Diciamo la verità. Beh, durante i video, i primi ad aggredirmi durante, ecco, c'era in corso la manovra economica di novembre scorso, furono alcuni parlamentari del Partito Democratico, per la verità. Sì, sì, uno, e non ricordo neanche i nomi, per la verità. Sui nomi, per la verità, perché ormai non c'è tanta un'inflazione di persone che mi vuol menare, che mi viene a minacciare, che mi viene a dire che queste cose non si dicono, perché in Parlamento cane non morde cane, questa è la linea politica del Parlamento. L'atmosfera che c'è. Sì, e allora bisogna coprirsi tutti, e tu rubi di qua, io rubo di qua, io chiudo un occhio di qua e tu rubi, chiudi un occhio di là. Funziona. Sta dando un'immagine davvero... un'immagine del Parlamento devastante, sta dando. Ma questa è l'immagine di un Parlamento, abbiamo visto anche in questi giorni, i ladri di politica che si annidano. Signor Lusi, senatore Lusi. Senatore Lusi. Come lo definisce il senatore Lusi? Beh, un ladro di politica... Come vuoi definirlo? Un ladro di politica. Beh, deve esserci ancora tutto, cioè, siamo all'inizio. Guardate, noi dobbiamo togliere questo viziaccio. Lei lo vorrebbe vedere in galera proprio. No, io non voglio aspettare le sentenze e la galera. Beh, come no? Se persone hanno dei comportamenti deprecabili, schifosi, come facciamo? Questi politici che sono nelle istituzioni per rubare, per prendere, per arraffare, per fare i cazzi loro e basta, ebbene, ma dobbiamo aspettare le sentenze, dobbiamo aspettare i magistrati. Deve essere la politica che da sola deve cercare di modificarsi, di eliminare questi difetti. Ma gli sputerebbe in faccia, lei gli sputerebbe in faccia. Nel modo più assoluto, perché io non sono mai violento, né tantomeno uso gesti. La mano gliela stringerebbe, la mano. Nel modo più assoluto, tanto è vero che appena arrivai in Parlamento fu proprio uno dei miei punti di partenza. Dico, io qui ci sono persone a cui non stringo neppure la mano, niente, e con cui non prendo neanche un caffè. Ma saranno in molti anche viceversa, diciamo, immagino, con lei, però. No, per la verità, negli ultimi tempi invece vedo molte persone che mi offrono, vogliono offrirmi caffè. Sarà come quello di Sindona. Così. Attenzione, farà la fine di Sindona lei. Ma per la verità, in vita mia non ho accettato mai nulla da nessuno, né caffè, né regali, né altro. Signor Barbato, però mi dica la verità, lei Lucy lo vedrebbe volentieri in galera, dopo quello che ha fatto? No, io Lucy lo caccerei a calci in culo dal Parlamento e dalla politica, perché ecco, la politica deve avere la capacità di autoemendarsi, di eliminare le mele marce che ha al suo interno. Non ha presentato nemmeno le dimissioni ancora. Guarda, non hai presentato le dimissioni, ma che cambia? Dovrebbe essere il suo partito che un attimo dopo... Beh, lo ha fatto. Che, lo sì, dopo tanto tempo. Che tanto tempo? È ma successo sì, un paio dopo... di una settimana fa. Guarda, posso dire una cosa? Che sapevano tutto, secondo lei? Ma pensate davvero che Lucy abbia fatto il ladro di politica da solo? Beh, ma le pare mai possibile? Rutelli ha detto che siamo stati fregati, lei non ci crede al signor Rutelli? Guardi, io so solo una cosa, che Rutelli era cointestatario dei conti correnti in banca con il senatore Lucy. Con il senatore Lucy. È colpevole quanto Lucy. Quantomeno era a conoscenza dei conti correnti, degli estratti conto che gli arrivavano sicuramente a caso. Ma secondo lei Rutelli controllava ogni giorno? Ma su, siamo seri. Rutelli è segretario di un partito. Io vorrei sapere... Si fidava del suo plenipotenziario, allora, di quello che si occupava, allora, di quello. Allora, ascoltatemi. Dai, allora, su, ascoltate. Adesso, io so solo una cosa, che quando Rutelli organizzò la Margherita, sì, e aveva in Campania un gruppo della sua corrente che si autodefinì i Coraggiosi. Sì. Questo gruppo di Coraggiosi, che era la corrente di Rutelli, sapete, sì, da chi era capeggiata? Da un attuale consigliere regionale, sì, di che partito? Arrestato per camorra. Nella scorsa consigliatura era col PD, adesso invece è stato eletto nel centrodestra in Campania. Dunque, allora c'era lui, poi c'era il presidente della provincia di Salerno, un certo Villani, pure arrestato, poi c'era il presidente. Ma che c'entrano Rutelli? Questi erano i coraggiosi, cioè questa cricca. Ma i volonterosi, cioè anche Cilipotti. Cilipotti era stato eletto con voi, però. Questa cricca di coraggiosi era, diciamo, l'armata forte di Rutelli. Questa era l'armata di cui si circondava Rutelli e con cui pensavano di fare politica. E allora abbiamo Italo da Trento. Scusi se l'ho interrotta, Italo. Poi riprendiamo con Barbato, che sono cose molto serie, ma soprattutto l'esibizione di Barbato, che è il vincitore della scorsa edizione, sì, di Politicanti. Ha cambiato canzone, però, quest'anno, nella seconda edizione di Politicanti, perché c'era Venditti nella prima edizione e adesso ha voluto cambiare con qualche riferimento alle vicende politiche attuali, diciamo. Sicuramente. Allora, Italo, vada. Allora, innanzitutto io sono Italo di Rovereto. Di Rovereto, va bene, ma non si offende, quei trentini, allora, non è che sono dei banditi. Volevo chiedere una cosa. Sì. Lei sa cosa vuol dire 14 milioni naturalmente di euro, giusto? Beh sì, più o meno. Allora, detto non li ho mai visti in vita mia, 30 però. 30 miliardi. Sì, allora? D'accordo. Sì. Allora, lei pensi che un operaio medio prende, sì, 1500 euro al mese, no? Se io divido 1500 euro al mese per 14 milioni, no? Vuol dire che posso avere 9333 mesi, no? Allora? Allora, cosa vuol sì, dire? Sì, ma la cosa che su cui incazzarsi è l'esistenza del finanziamento pubblico, anni, bisogna toglierlo, togliere il finanziamento pubblico, basta con questa farsa che i partiti, altrimenti la politica la farebbero i ricchi, no, non è vero, non è così. Fare dei controlli in più. Ma che controlli in più? Ha ragione Giachetti, solo il 5 per 1000, basta. Far depositare i bilanci Corte dei Conti, ad esempio. Andiamo al succo del suo ragionamento. Depositare i bilanci alla Corte dei Conti, ad esempio. Qual è il succo del suo ragionamento? Non ho capito. Il succo del mio ragionamento è che io con quei soldi lì prendo 100 persone e gli do 1500 euro, no? Sì. A 100 persone per 7 anni e virgola 70. E quindi? 7 anni do uno stipendio di 1500 euro a 100 persone. Ah, lei dice che se uno dovesse riavere quei soldi e redistribuirli in un certo modo. E penati? Sì. Va bene, grazie. Intanto qualcuno mi suggerisce e mi dice che effettivamente Lucy al massimo può fare, secondo alcune previsioni, sei mesi di galera. Però magari si è intascato un tot di soldi. Però sono cose complesse perché c'è il patteggiamento, magari uno deve restituire. Cioè, per arrivare ad una pena mite, questi soldi devono uscire fuori. Non è che si può pensare che Lucy, sempre se le cose saranno confermate, eccetera, torni, come dire, dopo sei mesi col bottino, insomma. Ma confermato o non confermato? Cioè, si sono fregati 13 10 milioni di euro. Sono sì, soldi pubblici. Il finanziamento pubblici. Pubblico riguarda tutti, eh. Le... Allora, il finanziamento pubblico quanto prende l'Italia dei Valori? Il finanziamento quanto prende l'Italia dei Valori? Legittimamente. Allora, il finanziamento pubblico. Ma lei lo sa quanto prende l'Italia dei Valori? È una cosa. Ma quanti soldi prende l'Italia dei Valori? Sacrosanta, perché lasciano i partiti in autonomia rispetto a pressioni, loro, sì, condizionamenti delle grandi lobby e dei grandi potentati. Ma quando mai? Allora è preferibile tenere partiti che hanno dei bilanci pubblici, che hanno un controllo pubblico, perché Barbato. Si tratta di finanziamenti pubblici, sì, e non possono essere considerate come società private. Ma l'Italia dei Valori, allora, quanti soldi ha preso? Perché non facciamo un sistema come negli Stati Uniti? Prende, sono le lobby trasparenti. Ma che io voglio sapere chi c'è, certo, dietro Barbato. No, non ci penso affatto. Le assicurazioni, cioè io poi, le assicurazioni. Io Barbato, poi, lei fa l'assicuratore? Ma questo già lei succede. Lei fa l'assicuratore o no? Certo. Allora io voglio che le lobby degli assicuratori, sì, finanzino Barbato. Non esiste, non esiste, farà perché io in Parlamento, durante un'audizione, sì, in Commissione Finanze, ho messo alla porta l'ANIA, che è la Confindustria delle assicurazioni, perché la mia libertà mi consente di fare delle leggi nell'interesse dei cittadini e non sono servo né di una lobby né delle assicurazioni né di nessun altro. Ma lei non prenderebbe i soldi? È sacrosanta la libertà dei parlamentari. Ma in America non sono liberi i parlamentari, non ho capito. No, perché se tu vieni pagato da qualcuno, se qualcuno ti compra a priori, ti mette i soldi in tasca per far politica, è fin troppo evidente che quando sei in Parlamento devi rispondere a quei padroni. Almeno è trasparente. Almeno è trasparente. Comunque, non si scaldi perché adesso andiamo con la canzone Traffico e poi iniziamo. Ottimo. Allora, secondo ospite, secondo concorrente di Politicanti, sigla. Oh mamma mia, arginare il mare. Un bel disario che si è offerto volontario. Ego la nostalgia del me Milan. Politicanti, le ugole di palazzo. Ebbene, il detentore del titolo, Francesco Barbato, Italia dei Valori, presente, che cambia da Venditti. Eccolo. La canzone vincente dell'anno scorso qual era? Che non me la ricordo più. Alta Marea. Alta Marea. Facciamo un pezzettino di Alta Marea velocemente, così, velocemente. 30 secondi, nemmeno. Autostrada deserta, al confine del mare. Sento il cuore più forte di questo motore. Questa è stata la canzone vincitrice della prima edizione di Politicanti. Adesso invece Mala Femmena. Bada, vuole la base o no? Vuole la base o no? Scusa, non ho capito. Mala Femmena non a caso. Perché? Mala politica. Rispetto a sta mala politica stamattina, lo sapete, hanno fatto un provvedimento, è venuto in aula alla Camera. Aspetta, dopo il pippone. No, che pippone? Dopo per lo sfollamento delle carceri c'era stamattina. Ci sono troppi carcerati. Eh sì, perché devono cacciare fuori i criminali perché c'è troppo affollamento di carcere, così pensano di risolvere i problemi della sicurezza svuotando le carceri di criminali. Che ma fare? A proposito, vi dicevo prima di un consigliere regionale in Campania che è in galera, che era del PDL, ce ne sta, naturalmente ce ne stanno altri due ancora. Allora che faranno? Un altro del PD e un altro del PDL ancora. Usciranno? No, il problema è che ci stanno tutti questi consiglieri regionali in Campania, in Lombardia, che stanno in galera e devono sfollare le carceri. Per questo, allora, lo fanno, cacciano i politici fuori, così naturalmente alleggeriscono un po' le carceri. Non è così. È così. Vabbè, Dardato, è allora così. La vuole la base o no? La vuole la base o no? Sì, mettiamo la base della femmina, via. Sì. Quel che fatta a me stom t'avessa accisa e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra femmina come a te non c'hanna sta panomma onesta come a me. Femmina, tu sei una mala femmina, che sto che fatte chiagnere, lacrime famità. Femmina, Se tu peggi una vipera, m'indussegate l'anima, non posso più campare. Femmena, sei dolce come lo zucchero, però sta faccia d'angelo te serve per ingannare. Femmena, tu sia più bella femmena, te voglio bene e t'odio, non te posso scordare. Beh, te voglio ancora bene, ma tu non sai perché. Perché l'unico amore sei stata tu per me. E tu per un capriccio tu t'hai distrutto in me. Ma Dio non te perdona quello che hai fatto a me. Femmena, tu sei una mala femmena, chi sto che fatte chiagnere, lacrime famità. Femmena, sì, tu peggina vipera, mentre tu segate l'anima, non posso più campare. Era Francesco Barbato, mimico, applausi, applausi a Francesco Barbato. Non si vuole fermare, non si vuole fermare. La conclusione. Trovo io il modo per com'è fermarlo. La conclusione? Com'è la conclusione? La conclusione che non te posso scordare. Non te posso scordare. Grazie a Francesco Barbato. Italia, ricordiamo, votazione ufficiale sul sito Facebook ufficiale della Zanzara, della Zanzara Radio 24. Ricordate, la Zanzara trattino Radio 24, perché ci sono un sacco di siti non ufficiali. Il nostro è la Zanzara trattino Radio 24. È stato con noi il mitico Francesco Barbato. E fatemi dedicare però questa canzone di Mala Femmena. La devo dedicare naturalmente a Rubi, a chi? No, alla politica. Anzi no, mi correggo. Alla mala politica. Grazie, a domani. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua. Ti piace così? Va bene. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.